bambini, venite qui bambini che partiamo. In giro per l'Italia, in giro per l'Italia ce ne andiamo. L'Italia è una penisola, è bagnata per tre lati lei dal mar. La parte rimanente attaccata è al continente che è l'Europa. C'è la Val d'Aosta, confina con la Francia, se France. Tra la Val d'Aosta e la Lombardia, Piemonte. E se vai in Liguria, splash splash, un tuffo nel Mar Ligure puoi far. In Trentino, in Friuli, invece puoi sciar. Se hai una fidanzata che di colpo con un gesto vuoi stupir, in Veneto, a Venezia, sulla gondola tu invitala a salir. Ma se poi ti viene fame e tu la polenta non vuoi più mangiar, in Emilia Romagna ti puoi rimpinzar di tortellini e parmigian. Sotto la pianura inizia un'altra parte che è central. In mezzo abbiamo l'Umbria, ad Assisi San Francesco puoi trovar. A destra vi le Marche, splash splash, l'Abruzzo e poi il Molise, splash splash, un tuffo nell'Adriatico, Adriatico puoi far. Ad ovest la Toscana, gli Uffizi di Firenze e Pisa, con la torre che pende Viareggio, poi con il suo grande carneval. Nell'Asia c'è la capitale, Roma capo mondo tu puoi visitar. In basso già nel sud c'è la Campania, sai, ed il Vesuvio avrai. In Basilicata i sassi di Matera puoi guardar. Se passi per la Puglia tu pizzica e taranta puoi ballar. Ma se pizzica la lingua, ai ai, l'Anduia calabrese sputerai. In Sardegna e in Sicilia di corsa nuoterai. Allora, buongiorno a tutti e tutte, cominciamo questa trasmissione, e è una nuova trasmissione per Radio Onda Rossa. Come diceva pochi minuti fa la compagna che, diciamo, la introduceva, la presentava, è una trasmissione che abbiamo pensato per cercare di conoscere un po' meglio la situazione che c'è nelle varie regioni italiane. Abbiamo scelto questa sigla, diciamo, un po' borderline per Radio Onda Rossa, però... E, diciamo, forse potremmo chiamare questa trasmissione proprio appunto In Giro per l'Italia. E rispetto a questa canzone, però, invece di partire dal nord partiremo dal sud, perché ci sembra anche importante, magari più specifica, dedicare un po' di tempo in più alla comprensione di ciò che avviene al sud, sia dal punto di vista sociale, economico e politico generale, sia per quanto compagni e compagne, gruppi, collettivi organizzati stanno cercando di mettere in campo da anni, da mesi, ma anche nell'immediatezza, e per far fronte alle situazioni che ci sono al sud, una situazione di crisi, come magari si può evincere già dalla situazione reale per chi vive al sud o anche per chi può immaginarsela, ma certi dati, certi numeri, certe informazioni sono state messe nero su bianco dal rapporto Svimez che è uscito poche settimane fa e che descrive un quadro della situazione economica e sociale del sud terribile, potremmo dire. Viene di fatto condannato il sud, non condannato da questo rapporto ma dalla realtà esistente, a un futuro di depressione ancora costante e, se possibile, anche più forte rispetto al centro-nord del paese, con alcune, diciamo, problematiche specifiche. Quindi, da un punto di vista prettamente economico di sviluppo del capitale, chiaramente si fa anche riferimento al crollo dei consumi, al crollo degli investimenti, al crollo anche della, diciamo, l'occupazione da un punto di vista di crescita economica del paese. Chiaramente i dati che magari ci possono interessare meglio sono alcuni, come per descrivere la situazione di crisi crescente, come magari il tasso di disoccupazione nel sud Italia rispetto al nord. Il tasso di disoccupazione al sud pare attestarsi su un 19,7%, però c'è una variante. Questa variante è che il tasso di disoccupazione corretto, quindi alcune persone che sono disoccupate, vengono aggiunte quelle che non hanno negli ultimi mesi effettuato benché minima ricerca di posti di lavoro. Con questa aggiunta si arriva a un tasso del 31,5% contro il 13% diciamo della zona centro-nord del paese italiano. E tra l'altro un sud, e questo magari è uno dei temi che cercheremo di approfondire con i compagni per quanto possibile nello spazio di un'ora che andremo a chiamare, è un sud che vede una costante migrazione dal magari rispetto ai decenni passati inferiore diciamo dal sud verso il centro-nord e maggiore addirittura verso l'estero, però comunque un'emigrazione costante di almeno 150.000 persone all'anno che emigrano dal sud e che sono costrette a dover andare fuori a cercare comunque di trovare un posto di lavoro o comunque cercare di campare fondamentalmente. Questa trasmissione, come dicevamo prima, parte da una necessità, anche potremmo dire, posso partire dal dato personale, cioè una volontà anche conoscitiva di una situazione che c'è nel paese. L'intento è quello di andare a interrogare le realtà magari minori, magari meno conosciute in una città come Roma e anche nel resto del paese, per capire qual è la progettualità politica che portano avanti in città, in provincia, in regione. E chiaramente queste trasmissioni sono appunto fatte su base regionale. Oggi andremo a chiamare alcuni compagni e compagne dalla regione Sicilia, scegliamo di cominciare da lì e poi piano piano risaliremo verso nord e appunto c'è di fondo questa esigenza di conoscere meglio qual è la realtà un attimo specifica di ogni città, di ogni provincia e qual è la risposta che i compagni danno rispetto alle problematiche che si trovano davanti. Come primo collegamento abbiamo un compagno di Palermo che presentiamo. E con questa introduzione brevissima che ho fatto, io chiaramente cercherò di lasciare quanto più spazio possibile ai compagni. E una prima domanda può essere appunto: nella città di Palermo, nella provincia, in sintesi, che situazione sociale, economica e anche politica, se possibile, vi trovate ad affrontare? Ciao a tutti, sono Giorgio di Palermo, sono di un'associazione, un centro di documentazione delle lotte sociali che si chiama Zabut. Che situazione ci troviamo a vivere nella provincia palermitana? L'hai già ben introdotta, quell'ultimo rapporto Svimez è più importante degli altri, di quelli recenti degli ultimi anni, perché aggiunge un terzo elemento ai tre processi di desertificazione che già negli ultimi anni, negli ultimi rapporti, lo Svimez aveva individuato, in particolare a quella produttiva e a quella lavorativa. Questo rapporto aggiunge anche la desertificazione demografica che il Sud sta inevitabilmente subendo negli ultimi anni. Di fronte a questa situazione il quadro appare abbastanza chiaro. I tassi di disoccupazione li hai citati tu, un 31% generali più o meno calcolati, appunto non in maniera precisa, ma se poi guardiamo a quella giovanile che supera il 50%, se poi guardiamo al trend per cui davvero c'è tutto un tessuto della precarietà meridionale, di una precarietà costruita su basi capitalistiche di rendita e parassitismo che oggi vengono a mancare, perché vengono a mancare certe basi e certi flussi di denaro, soprattutto di denaro pubblico. Qua la situazione che si prospetta è davvero tragica. Faccio un esempio: sul livello della politica regionale, così come di quella comunale, abbiamo nei prossimi mesi a che fare con un bacino di precari della regione siciliana e del comune di Palermo che da tutte le parti si dice non poter essere riassorbiti da nessuna parte. Parliamo di migliaia di persone tra partecipate ed enti direttamente controllati dalle istituzioni pubbliche. Il quadro è ovviamente in peggioramento negli anni. Per anni, nei primi anni della crisi, in qualche modo il tessuto sociale siciliano aveva risentito in maniera meno traumatica che altrove del crollo degli investimenti come dei consumi. Evidentemente le reti sociali di cooperazione, ma anche di sostegno al reddito, appunto presenti storicamente qui in Sicilia, avevano permesso con in qualche modo un la possibilità di percepire più affievolita, diciamo, il cambiamento rispetto al passato. In realtà negli anni sta venendo fuori tutta la mostruosità di questa crisi economica, e quello poi lo si registra tanto nelle strade della nostra città quanto per esempio nei territori extraurbani. Su questo credo avremo modo di ritornare, ma non è un caso che negli ultimi anni si siano date insorgenze tanto su un piano metropolitano quanto su un piano regionale. Mi riferisco in particolare al tema dei forconi di qualche anno fa, quello dei forconi alla siciliana, insomma, i primi. Appunto siamo di fronte a una desertificazione di entrambi, diciamo, gli spazi geografici, appunto sia quello urbano che extra. Di fronte a questa situazione, come dire, registriamo solo un'incapacità istituzionale di riassorbire le stesse contraddizioni insite, diciamo, nell'assetto produttivo e politico regionale siciliano, appunto, che si abbia a che fare con un capitalismo di altro tipo. Qua al Mezzogiorno credo lo si abbia ben chiaro da tutte le parti. Come ciò si sta traducendo poi nella vita, diciamo, quotidiana, magari è un po' meno conosciuto, un po' meno comprensibile, ma se guardiamo a come si sta traducendo poi la guerra tra poveri, perché di quello parliamo, qua in Sicilia vediamo, insomma, le istituzioni impegnate semplicemente ad alimentare campagne legalitarie, repressive, di chiusura di spazi, in qualche modo, di spazi di iniziativa sociale, di iniziativa dal basso, e dall'altro lato li vediamo impegnati, appunto, semplicemente in una in campagne retoriche volte, diciamo, alla frammentazione di tutti i livelli sociali più bassi, e quindi impegnati nel tentativo di mettere i precari della regione contro i garantiti, i disoccupati contro i lavoratori delle partecipate, anche qui i migranti contro i palermitani, e tutto questo, appunto, poi genera ovviamente brutture di tipo sociale, sia nel discorso che nei comportamenti. A tutto questo credo che le realtà militanti dei territori debbano necessariamente far fronte riattivando, diciamo, quei meccanismi di solidarietà che al sud hanno sempre costituito un elemento di forza nella chiave, appunto, tanto della, in qualche modo, della ricomposizione sociale quanto della capacità di mutualismo presente nei territori. Credo che quella sia una delle poste in gioco in questo momento più importante da provare a conservare e rilanciare e alimentare, perché appunto di fronte a un quadro siffatto, diciamo, economico, senza neanche prospettive, senza nessuna prospettiva di parte capitalistica di ripresa in qualche modo della situazione, ecco, di fronte a questo quadro la necessità di costruire nuove aggregazioni sociali che in qualche modo garantiscono anche sul lato della riproduzione sociale, che appunto al sud è sempre stata garantita più che dal PIL e dagli indicatori economici, da un livello sociale che oggi è proprio quello sotto attacco. Da questo punto di vista, insomma, serve che tutti i compagni e le persone, diciamo, sensibili di fronte a la miseria, diciamo, a cui siamo stati messi, in qualche modo si rimbocchino le maniche e agiscono su questo livello, nell'organizzazione dei territori e di forme di vita nei territori che siano opposte e antagoniste rispetto a quelle che ci prospettano. Senti, tu già in questa breve descrizione che hai fatto, analizzando la situazione di desertificazione di cui tu giustamente parli del sud anche rispetto alla Sicilia, hai già anticipato uno dei temi che volevamo cercare di analizzare un po' più a fondo per quanto riguarda le regioni del Sud Italia, cioè il problema dell'emigrazione, e lo volevamo affrontare da un punto di vista generale. Già diciamo qualche informazione le data, io magari do qualche numero, diciamo così, per renderci conto della situazione che abbiamo, perché nel decennio dal 2001 al 2011 sono emigrate dal mezzogiorno verso il centro-nord oltre 1,5 milioni di persone. Nel 2012 circa 132.000 persone, di queste tra l'altro per la regione Sicilia circa 27.500 persone, e nell'ultimo anno, nel 2013, secondo le stime di Svimez, appunto, si parla di un'emigrazione di 116.000 persone, per cui appunto già prima lo accennavamo, c'è un dato costante di emigrazione e di svuotamento delle città e anche delle aree extraurbane, come parlavi tu, dal sud verso le aree del centro-nord. Chiaramente questo è un dato, i numeri parlano chiaro, l'hai anche tra l'altro spiegato anche abbastanza bene. Vorremmo anche capire qualcosina di più, perché chiaramente facendo un'analisi economica poi bisogna anche vedere qual è la risposta che come compagni e compagne diamo. E in questo, certo, quello che vorremmo capire, sapere, è per esempio quanto pesa anche l'emigrazione nella capacità di riproduzione dei progetti politici che le strutture, i collettivi, i centri sociali, comunque chi agisce politicamente nella regione Sicilia si trova ad affrontare, perché chiaramente se questo è il dato numerico in termini generali, crediamo anche che da un punto di vista specifico di compagni e compagne si viva questo problema, cioè nella progettualità politica si vivono costantemente ogni anno situazioni del tipo che persone, compagni sono costrette a lasciare la propria terra per andare via. Questo incide, influisce quanto è chiaramente negativamente sulle possibilità anche di progetti politici di portarsi avanti. Certo, guarda, ti aggiungo un altro dato rispetto a quelli che ben citavi. In quel decennio a cui ti riferivi, 2001-2011, sempre secondo i dati Svimez, Palermo è la città del sud che si è svuotata di più in percentuale rispetto alle altre, quella che ha perso più abitanti, più di Napoli, più di altri centri del mezzogiorno. Tante volte nel modo di ragionare su come l'emigrazione incide, diciamo, rispetto ai processi politici, si fa riferimento solo a un dato, quello in qualche modo a cui ti riferivi giustamente tu, quante persone, diciamo, che si sono affacciate, diciamo, all'attivismo politico, alla militanza, o in generale hanno preso parte, diciamo, a movimenti sociali nella città di Palermo, vediamo andarsene, sono tante, negli ultimi anni sono aumentate. In qualche modo un dato fondamentale, stupidamente lo si può riportare nei termini per cui ogni qualvolta qualcuno di noi da Palermo fa una passeggiata in giro per l'Italia per un'assemblea piuttosto che per un'iniziativa, ci capita sempre, in qualsiasi città d'Italia andiamo, in qualsiasi polo universitario soprattutto d'Italia andiamo, di incontrare persone che con noi hanno fatto movimento qua a Palermo. Ma c'è un altro aspetto, quello è già un aspetto quantitativamente importante, ripeto, tante persone con cui abbiamo fatto le lotte universitarie, piuttosto che tanti che hanno partecipato a lotte territoriali di altro tipo, faccio riferimento, l'ennesimo riferimento, i comitati No Mos sparsi per l'Italia, sono animati per lo più, mi par di capire, da migranti, da ragazzi che dalla Sicilia sono migrati a Roma piuttosto che a Torino, piuttosto che in altre città d'Italia, come la pace di Matteo Salvini. C'è anche un altro aspetto però che va tenuto in conto, che è un aspetto legato direttamente alla soggettività. Il tema dell'emigrazione forzata, dell'emigrazione di massa, è un tema che necessariamente è un agente di formazione di una soggettività precario capitalistica in qualche modo. I ragazzi crescono nelle scuole, e anche quando nelle scuole si danno da fare, i movimenti delle scuole a Palermo negli ultimi anni sono stati grossi e importanti, e in qualche modo hanno avuto una vita anche propria rispetto a quelli del resto d'Italia. Però ti confronti con questi ragazzi e ti ritrovi di fronte soggetti, ideologie, ambizioni in qualche modo che già a quell'età portano fuori da Palermo, portano fuori dal tuo territorio, in qualche modo ti sradicano fuori dall'impegno sociale nel tuo territorio. E questo è un dato che non può essere sottovalutato, perché appunto in qualche modo toglie il terreno dai sotto i piedi, hai a che fare con tante persone che per un momento che in un momento si spendono, ma che in qualche modo sono già proiettati altrove, e questo appunto ha un'incidenza rispetto poi alle possibilità di movimento. E allora il discorso può semmai essere ribaltato e può semmai essere uno di quei temi su cui provare a costruire mobilitazione e movimento. Vi faccio un esempio: è già un paio d'anni che gli appunto i collettivi delle scuole, degli studenti medi, registriamo raccogliendo in qualche modo i loro volantini, i loro documenti, scendono in piazza con lo slogan "io non voglio emigrare", con l'hashtag "io non voglio emigrare", e quello in qualche modo rappresenta un dato sociale di come si sia preso coscienza di una dinamica, quasi di un destino inevitabile, e in qualche modo lo si voglia combattere. È probabilmente questo tipo di atteggiamento l'unico antidoto possibile per provare a ribaltare un tema che è un tema che ovviamente depotenzia l'aspetto sociale. Dall'altro lato, lo accennavi bene tu nella tua domanda, esiste solo un'altra possibilità, che è quella di provare, diciamo, a rispondere alla miseria delle condizioni di vita a cui siamo relegati al sud, provando a costruire reti in qualche modo di supporto all'aspetto riproduttivo individuale e collettivo. Mi spiego meglio: occupare case, riuscire a strappare vittorie sul fronte delle tasse universitarie, piuttosto che vincere la partita sull'articolo 5 del piano casa e quindi sulle utenze, riuscire a mettere in campo tutte queste operazioni, avere reti, diciamo, di compagni sparsi in città che ti che in qualche modo alimentino il circuito di una diffusione sociale, di possibilità per rifornirsi di cibo, insomma mettere in campo tutta una rete di attività che spingano in qualche modo i compagni e le persone sensibili ad avere possibilità di vita maggiori lì dove si trovano, qui a Palermo, qui in Sicilia. È forse l'unica altra possibilità, o almeno è quello su cui i movimenti si stanno indirizzando negli ultimi anni, tra la lotta per la casa, la lotta all'università, riuscire a offrire una possibilità in più di restare e di non dover scappare dalla Sicilia, in qualche modo diventa anche in questo caso un compito dirimente per i compagni, se non vogliono insomma perdere tanto tanti pezzi di Palermo, soprattutto di giovanilità palermitane. È un dato importante. Tu dicevi, forse non siamo ai livelli di qualche anno fa sul centro-nord, ma a registrare, diciamo, a leggere i dati Svimez, anche tu l'accennavi, l'emigrazione complessiva tra centro-nord ed estero è tornata a livelli davvero di decenni fa. Se a questo si unisce quella desertificazione demografica di cui parla lo Svimez, che ci riporta ai tempi addirittura per rapporto tra morti e nascite del 1861, quindi subito dopo le cosiddette guerre risorgimentali, insomma la spedizione garibaldina, qua abbiamo chiaro tutti qual è, diciamo, l'aspetto quantomeno esteriore della vita a Palermo e in Sicilia in questo momento. Davvero la gente scappa, la gente è costretta a scappare, e questo si registra in uno svuotamento poi della stessa vita e degli stessi modi di vita dei siciliani. L'emigrazione da questo punto di vista, come dire, diventa un orizzonte che già ti prospettano da quando sei un bambino nelle scuole, e che quindi poi maturi negli anni convinto che sia appunto il fato poi a portarti via da Palermo, e che sia obbligatorio e necessario pensarci sin da piccolo. L'unica possibilità di risposta che hanno i compagni in mano è quella di provare a convincere qualcuno che si può restare qua e fare e provare a cambiare le cose qua, garantendosi qualche possibilità di vita anche su questi territori. Senti, questo ci permettiamo di dire che è fondamentale per cercare di aggredire questa situazione, quindi di cambiare almeno pezzo per pezzo nel piccolo che si può in questa fase, però appare fondamentale. Entrando nello specifico, già qualcosa l'accennavi, l'interesse che abbiamo anche è quello di conoscere un po' più approfonditamente qual è come si articola la progettualità politica, chiaramente con te nella città di Palermo. Ci spieghi un po' nella città di Palermo e anche in provincia cosa state cercando di mettere in campo su vari fronti. Già qualche cosina l'hai accennata, e accennavi l'ambito universitario, l'ambito della lotta per la casa, però appunto a livello complessivo come si articola il vostro lavoro politico in città, e anche tenendo conto di questa situazione economica e sociale che descrivevamo prima. Assolutamente, provando a essere rapidissimo, come dire, quello che registriamo, diciamo, nell'attività dei collettivi presenti e attivi qua a Palermo, appunto è il tentativo di tenere assieme, come dire, vari pezzi, diciamo, di strati sociali palermitani, per cui ci sono iniziative, percorsi, compagni impegnati tanto sul fronte, diciamo, dei bisogni di parte, di una politica sui bisogni in qualche modo proletari, potremmo dire, quindi fondamentalmente tutto ciò che ruota attorno alla politica che fanno i centri sociali di quartiere in questa città. A Palermo sono due centri sociali occupati, sono l'ex carcere, che è la prima occupazione autonoma della città, che già risale a 13 anni fa circa, e l'anomalia che è nata da pochi anni, e che entrambi, essendo situati in quartieri popolari del centro città di Palermo, appunto svolgono quel tipo di iniziativa politica molto rivolta ai territori, e quindi, a parte le attività sociali dopo scuola e queste cose, le palestre popolari, che sono diventate, diciamo, un punto di riferimento importante in tutti quei quartieri, l'Antifa Fight Club e la palestra popolare dell'anomalia Borgo Vecchio, poi appunto si fanno, fondamentalmente diventano i luoghi propulsivi della lotta sulla casa, così come i luoghi di incontro per movimenti dei disoccupati, insomma iniziative che parlino direttamente il linguaggio dei territori dentro cui queste realtà si sono andate a innescare e provano a incidere. Poi c'è tutto l'aspetto, insomma, in qualche modo più universitario. Il collettivo universitario autonomo ha un paio di spazi occupati, due spazi occupati dentro la città della universitaria. Loro si concentrano, i compagni e le compagne si concentrano in questo periodo sulle loro vertenze relative soprattutto alla tassazione all'università, e appunto, per ricollegarci al tema di prima, la questione del ridurre, diciamo, le spese e in qualche modo continuare, se mai possibile, anche se anacronisticamente, a parlare di diritto di studio in questa terra è più importante che mai, perché significherebbe garantirsi un migrante in meno, diciamo, e magari un iscritto in più. Quindi il fronte della tassazione, così come il fronte poi in qualche modo della contrapposizione diretta con le nuove strutture di governance dell'università, e quindi le occupazioni degli spazi e una presenza, diciamo, nelle ex facoltà che sia in qualche modo visibile, territorializzato, luogo di box occupati che fungono da luoghi di aggregazione, diciamo, della componente studentesca, ispirandosi in qualche modo alla metodologia assembleare, autonoma e politica che abbiamo innescato in questi anni in città. Sono venuti fuori poi anche altri tipi di occupazione. C'è il Teatro Mediterraneo Occupato, che è appunto uno spazio artistico culturale occupato ormai da un anno e mezzo, quasi due anni, che appunto in qualche modo si rivolge nella sua attività politica a quel mondo di precariato, diciamo, dell'arte, della cultura, che non trova spazi, diciamo, di iniziativa collettiva in questa città. Loro in questo momento sono molto impegnati sulla questione dei beni comuni urbani, nei termini per cui hanno aperto uno scontro con le istituzioni locali, appunto, rispetto all'utilizzo di alcuni spazi abbandonati della città e la riqualificazione in senso collettivo, artistico e culturale. A questo poi si aggiungono vari altri collettivi, c'è una presenza dei compagni allo stadio in un gruppo organizzato che si chiama Borgo Vecchio Sisma, che è appunto il quartiere dove Anomalia fa la sua iniziativa, politica, e poi appunto varie altre associazioni come la nostra, che appunto ci impegniamo a raccogliere memoria, offrire strumenti di analisi sui movimenti sociali, appunto l'associazione Zabutte, e soprattutto i collettivi delle scuole che in questo momento hanno iniziato la loro partita, diciamo, di occupazioni delle scuole. Palermo negli ultimi anni ha raggiunto livelli davvero spaventosi, anche anomali rispetto al panorama nazionale, su questo periodo di mobilitazione, sia nei numeri delle piazze che soprattutto nei numeri delle occupazioni. L'anno scorso furono occupate 33 scuole a Palermo, per tutto questo periodo oggi siamo già a 8-9 scuole occupate, ma altre arriveranno. La cosa interessante è che davvero all'interno di queste scuole si muove una soggettività cosciente, realistica, insomma sono giovani in qualche modo hanno le idee chiare, nonostante un livello repressivo sullo studente davvero originale e preoccupante in termini di segnalazioni alle questure, polizie che intervengono, denunce a ragazzi che occupano, insomma interrogatori, situazioni abbastanza, come dire, preoccupanti sul fronte delle iniziative di giovani studenti come quelli delle scuole superiori. Questo è un po' lo spettro, diciamo, di attività Senti, Giorgio, che i compagni svolgono in questa città. In realtà, provando a dirla semplicemente, Palermo, credo tutta la Sicilia e il Mezzogiorno, ha la necessità di, come dire, ricucire strappi sociali, che sono gli strappi voluti dal governo, dalla governance e dai poteri forti locali. Oggi più che mai Palermo conosce una separazione di bisogni e di linguaggi tra i diversi strati sociali della città, per cui provare a ricucire ciò che è i ragionamenti sulla legalità piuttosto che la società civile, diciamo, alla siciliana hanno causato, provare a ricucire provando appunto a mettendo assieme tanto una politica, diciamo, che parli ai quartieri popolari e a quel tipo di soggetto che anima i quartieri popolari della nostra città, senza cui qualsiasi trasformazione sociale reale diventa impossibile anche solo a pensarsi, è una parte che potremmo dire in qualche modo più di ceto medio impoverito, soprattutto quando parliamo di studenti universitari, delle scuole, che appunto in qualche modo dobbiamo non lasciare in mano a chi appunto oggi parla di competizione merito o peggio di legalità, di civiltà, generando poi quella frammentazione sociale che non permette più che siano automatici certi meccanismi di solidarietà. Quindi i compagni provano a stare un po', diciamo, con tutti, con i lavoratori delle partecipate comunali, così come con i lavoratori del pubblico impiego, dagli operai che scenderanno in piazza la prossima settimana nello sciopero generale della FIOM che farà tappa a Palermo, fino anche alle occupazioni di case, che appunto fino a una settimana fa c'è stata l'ultima. Insomma, lo spettro di attività è uno spettro importante, resta, come dire, poi un piano innegabile, che è quello che di fronte a questa situazione sociale che stiamo descrivendo oggi in questa trasmissione crediamo un po' tutti, che a livello generale il sud, il mezzogiorno d'Italia, i sud diciamo d'Italia, se facessimo ragionamenti un po' meccanicisti, ci dovremmo chiedere come mai ancora, come dire, il livello complessivo generale di sistema sta tenendo, non siano venute fuori chissà che esplosioni, insomma, di tipo sociale. È vero che le strutture, diciamo, di medietà evidentemente stanno tenendo botta rispetto a un quadro che è misero, ma anche è vero che appunto degli elementi negli ultimi anni di insorgenze sono state registrate a più livello. Palermo è stata comunque una città fortemente conflittuale, lo è in realtà ormai strutturalmente, ma quando parliamo di conflittualità che in qualche modo ci interessano, parliamo di conflittualità orientata in qualche modo alla messa in discussione delle forme del comando in questa città. Senti, dobbiamo riconoscere Giorgio, che negli ultimi anni, come dire, ci siano stati. Dimmi tutto, Francesco. Senti, no, visto che comunque abbiamo già descritto molto bene, hai descritto molto bene un quadro complessivo di intervento e iniziativa politica nella città di Palermo, magari prima di concludere, brevissimamente, una delle cose che comunque mi è saltata, diciamo, all'orecchio perché stiamo ascoltando, e delle cose che, di cui parlavi, è una mobilitazione con i disoccupati, che credo che non ci siano tanti casi nel paese di un intervento di questo tipo. Se ci puoi spiegare come avviene anche materialmente proprio l'approccio, la conoscenza con i disoccupati, se c'è, come si articola il tipo di organizzazione e quali sono eventualmente le rivendicazioni che si provano a portare avanti. In realtà movimenti dei disoccupati al mezzogiorno sono storicamente esistiti, ce n'è uno famosissimo, che è un caso famosissimo, che è quello dei disoccupati, dei movimenti dei disoccupati a Napoli, che nei decenni passati, come dire, hanno saputo far parlare è parecchio di sé. Qua in qualche modo su questa terra c'è una necessità, noi recentemente ci siamo trovati a ragionare sul tema del rapporto tra organizzazioni, organizzazione dei territori e organizzazione del mondo del lavoro, ma ragionare su organizzazioni nel mondo del lavoro in Sicilia è più complicato. In Sicilia nel mezzogiorno come dire, già di per sé esclude tutta una fetta di società che invece il lavoro il salario, soprattutto la forma, diciamo, salario non la conoscono, non la riconoscono, comunque non ci si trovano invischiati. Allora ragionare sulle forme della disoccupazione, così come delle forme di nuova povertà che si diffonde nei territori, oggi è più che mai fondamentale. La gente in qualche modo, in questo caso sono sempre le spinte sociali poi a segnare, diciamo, i sentieri. E sul movimento dei disoccupati, sui movimenti di disoccupati a Palermo, ogni, come dire, regolarmente parliamo sempre di casi in cui i compagni si approcciano, diciamo, a spinte che vengono già, diciamo, intercettate nei territori, per cui poi la questione di base, quando dici quando chiedi dell'approccio, è sempre quello, è sempre il ragionamento legato alla necessità di essere una presenza riconosciuta e visibile nei territori. Farti conoscere nei quartieri, nelle situazioni sociali più disparate, avere una legittimità in quelle, ti permette poi di essere contattato nel momento in cui qualcuno si vuole organizzare, insomma, per provare a strappare condizioni di vita migliore. In questo caso è stato così, come dire, in qualche modo è stata l'iniziativa collettiva e sociale di questi disoccupati a cercare in qualche modo la nostra presenza, è una, come dire, un nostro contributo, e in qualche modo così abbiamo fatto. Le proposte poi, il piano delle proposte si è sempre in qualche modo circoscritto al tema di una possibilità di reddito in più, e quindi fondamentalmente le proposte sulle cooperative, su alcuni campi di intervento possibile che in questo momento sono scoperti a livello come dire, tanto istituzionale che privato in qualche modo, e quindi cooperative che si occupino piuttosto che della riqualificazione urbana, di aspetti specifici, diciamo, della vita cittadina che in questo momento latitano. E su quello si prova su quel tipo di proposte in qualche modo ragionevoli, nei termini per cui l'istituzione, diciamo, non avrebbe avrebbe sì un aggravamento dei costi della crisi, ma allo stesso tempo, come dire, garantirebbe a tante persone una possibilità di reddito, e appunto la necessità, diciamo, di migliorare le proprie condizioni di vita poi spingono questi movimenti ad avere una presenza costante sotto i palazzi del potere, per cui il movimento dei disoccupati passa, diciamo, le giornate tra un'occupazione di ufficio di un assessore regionale, un presidio sotto la regione, o un'iniziativa al comune di Palermo per andare a fare pressione al sindaco Orlando piuttosto che a un assessore della giunta. Insomma, il tema poi della necessità di fare un discorso di parte che tenga per nulla in conto, diciamo, anche i ragionamenti della controparte, quello che in realtà ci siamo detti in questi mesi a livello anche nazionale, l'aggravamento dei costi della crisi che hanno socializzato e hanno scaricato su di noi per anni, ma che oggi dobbiamo essere in grado di in qualche modo ribaltare anche, come dire, facendo pagare uno scotto sociale a chi questa crisi l'ha provocata, è un tema centrale. Credo che questo tipo di movimenti che si muovono sul piano della ricerca di forme di reddito, su questo orizzonte si devono muovere, riuscire a strappare con la pressione politica, con la contrapposizione diretta una possibilità di vita in più. Questi movimenti dei disoccupati su questo si sono rivolti. La partita è ancora aperta perché la politica locale non riesce a dare risposte. Noi quando parliamo di Sicilia va tenuto sempre in conto che parliamo di una regione che in qualche modo è non formalmente ma sostanzialmente da poche settimane commissionata, commissariata, scusate, da uomini di Renzi e da una nuova giunta regionale voluta direttamente dal Partito Democratico, con uomini di Roma mandati direttamente qui a gestire le casse, diciamo, della regione, ma parliamo di una regione che in realtà è in fallimento già da anni, in rosso pesantissimo, non riesce a garantire nessuna, diciamo, delle promesse, degli accordi fatti per mancanze di fondi. Parliamo di una politica locale che su questo fronte è davvero in difficoltà, e voi potete capire bene che essendo stato da noi il tema, diciamo, della politica come, come dire, strato in realtà produttivo della terra, in assenza di una borghesia imprenditoriale che investiva, diciamo, ma essendo stata la politica quel ceto, diciamo, di burocrati che hanno garantito semplicemente i flussi di denaro che facessero, diciamo, da sfondo alle politiche di rendita ed estrattive su questa terra. Nel momento in cui questi rubinetti vengono chiusi, tutto questo strato di politici perde la sua stessa funzione, la sua stessa ragione di esistere. Credo che quel tipo di contrapposizione su questo vada fatto anche in relazione alla loro debolezza. Certo, scusami se ti interrompo, però per gli spazi che abbiamo a disposizione, chiaramente abbiamo altre tre corrispondenze da fare con Catania e Messina, per cui ti ringraziamo per questo quadro che ci hai descritto molto ampiamente, e sono sicuro che dal punto di vista generale, economico e sociale, i compagni che interverranno dopo si potranno appoggiare su questo tipo di analisi che hai fatto, perché credo che possa essere condivisa. Poi lo capiremo anche con loro se vorranno aggiungere o spostare il tiro su alcune cose. Comunque noi ti ringraziamo e mandiamo un breve stacco musicale, e così poi abbiamo anche la possibilità di chiamare gli altri compagni, e con te eventualmente ci sentiremo in futuro qualora ci sia la necessità di fare corrispondenze e capire cosa succede nella città di Palermo. Va bene? Con piacere. Grazie a voi, grazie Francesco, un saluto a chi verrà dopo di me. Ciao, ciao. J'ai toujours loupé à ma sauce, j'ai pas écouté les médisants, j'ai quitté tôt les bancs de l'école qui me trouvaient trop épuisante. J'ai renié mon auréole quand mes plaies étaient trop vivantes, entre les murs d'une cellule glauque ou sur le dos d'une étoile filante. Je suis parti loin de chez moi où m'a-t-on emmené de force. J'ai traversé mes peurs une à une de mon zèle de gosse. J'ai soulevé des montagnes même sous le ricanement de l'autre. J'ai connu l'infernal et puis le rayonnement de l'aube. J'ai voulu comprendre qu'il y avait des crétés, que ce monde pourri serait ainsi qu'on ne pourrait jamais rien y changer sans se faire fracasser par ceux qui portaient l'insigne. J'ai écrit des milliers de rimes que j'ai sorties en m'écorchant les tripes. Gardez vos cases et vos titres sauvages parmi les sauvages qui nagent en regardant l'éclipse. Sans bouée de sauvetage, je nage dans l'immensité de la life. Prendre sèche ou son message, que j'oublie pas de sonner mes palabres. Si je suis pas là, c'est que je me balade. Veuillez stylo sur le champ de bataille. Contre les mythos et leurs plans de bâtard. Moi aussi, Babylone m'a rendu malade. J'ai osé regarder mes dos. Oui, j'ai traversé des déserts. Dans les normes, on rentre pas dans les normes. Parce qu'ils ont inventé les rêves. Et prôné l'inventaire. Allora, quasi di corsa ritorniamo in onda e per portare avanti questa trasmissione e cercare di non concluderla tardissimo. E abbiamo sentito fino ad ora una descrizione di un quadro sociale, economico e anche politico, e non solo della città di Palermo ma della regione Sicilia. Abbiamo dato qualche numero per capirci qualche cosa di più sull'ambito, sull'aspetto economico, anche sull'emigrazione. E chiaramente quello che crediamo rispetto a quanto abbiamo discusso fino ad ora su Palermo sia si possa applicare come schema d'analisi e di ragionamento anche per le altre città. Noi ora in collegamento abbiamo un compagno di Catania e eventualmente quello che gli chiediamo è se per esempio l'analisi fatta fino ad ora corrisponde anche alla città, alla provincia di Catania, se ci sono delle specificità in più magari da analizzare. E io arriverei anche in questo caso direttamente anche alla, diciamo, la seconda questione che ponevamo, cioè quanto pesa, influisce, incide l'emigrazione nella città di Catania sui progetti politici che i compagni e le compagne portano avanti. Sì, ciao, intanto sono Fabrizio, appunto, di Aleph, questo collettivo che a Catania ormai da 3 anni lavora sulla città e diciamo, cercherò di essere rapido e di non ripetere appunto quello che Giorgio ha ben spiegato, anche perché le similitudini tra, diciamo, tra le situazioni nelle città siciliane sono abbastanza, diciamo, alte. Proverò a dire qualcosina su Catania, sulla storia, nel senso che Catania è stata negli anni 60 la Milano del Sud definita. Quello che adesso palesemente non è più, lo posso, diciamo, esemplificare con un dato semplice: un'azienda leader che è l'azienda statunitense ST Micon, proprio nell'aprile scorso ha dichiarato e tagliato, diciamo, dentro l'azienda catanese, che era appunto azienda leader ed esempio appunto nel territorio dell'imprenditoria catanese. Da questo punto di vista posso appunto continuare a dire che il processo di desertificazione è generale, e dal punto di vista dell'occupazione i dati parlano abbastanza chiaro. Per dirla, insomma, anche più, diciamo, più palese, il lavoro non c'è e non c'è per nessuno, non c'è per chi la laurea non ce l'ha e non c'è per chi invece ha fatto un percorso di studi anche più ricercato. Mi riaggancio a questo per dire una cosa che è un problema che magari non è stato affrontato e riguarda la dispersione scolastica. Noi in Sicilia abbiamo un grosso, diciamo, bacino di dispersione scolastica e Catania, diciamo simile a Palermo, ha un 38% di appunto di dispersione che riguarda in realtà le scuole superiori, e i dati non sono poi così così generali, sono specifici nel parlare del fatto che la dispersione avviene esattamente in quartieri ben localizzati nel territorio catanese, che proprio non per caso sono i quartieri più popolari. Questo, diciamo, ci porta a parlare anche adesso della nostra sfera di intervento sul territorio catanese, perché è chiaro che se nel territorio catanese la dispersione scolastica è un primo problema, ma anche riportando a quello che diceva poi anche il rapporto dello Svimez, c'è stato un calo al sud delle spese legate all'istruzione e alle cure. Questi dati riportano il fatto che l'assenza del welfare si risente in fasce ben specifiche del territorio, ed è questa la sfera che probabilmente anche per questo abbiamo deciso di scegliere come sfera di intervento nostra. Per dire appunto che abbiamo attuato una politica legata all'occupazione di centri sociali in città, legata strettamente ai quartieri popolari, e quindi, ma come già diceva bene Giorgio, una figura del centro sociale legata al quartiere e alle problematiche del quartiere, per fare sì che appunto i territori possano, attraverso l'auto-organizzazione e poi anche strumenti di lotta, divenire e trovare, diciamo, dentro e non fuori le risposte. Mi riaggancio anche da questo punto di vista al discorso sulla immigrazione e sul, diciamo, problema legato ai giovani, parlando dell'ultimo centro sociale che abbiamo occupato, quello che attualmente è vivo a Catania, che si chiama Centro Sociale Liotru, legato, diciamo, è situato in un quartiere in cui l'università ha, diciamo, da un lato svuotato il quartiere delle famiglie storiche e trasformato in un quartiere universitario. Questo perché lo sto dicendo? Lo dico perché l'università è oggi sicuramente un luogo che può essere considerato strumento, cioè, diciamo, luogo di battaglia all'interno, secondo me, del contesto siciliano, ma dato, diciamo, penso palese a tutti, è lo svuotamento rapido che avviene dall'università verso il nord, ma verso l'estero. Università concepita dai giovani del sud come rapidissima, quanto più rapida, ricerca di un attestato per poter andare fuori. E allora è chiaro che questo diventa, come dicevate prima, un problema sia per il futuro e per la città che per le forze militanti. Senti, allora, appunto, rispetto a queste cose che tu dicevi, che confermano da un certo punto di vista, aggravano, fra virgolette, ma non è colpa nostra, non è responsabilità nostra, aggravano, diciamo, il quadro di crisi della regione Sicilia e di tutto il sud Italia. Qual è la risposta che voi, mi sembra di capire, da 3 anni agite, fate intervento politico nella città, qual è la risposta che cercate di dare? Ad esempio, magari come schema ideale ci ricolleghiamo a un po' quello che diceva prima il compagno di Palermo, no? Su un ambito magari territoriale, sul piano universitario, sul piano anche delle lotte per la casa, sul piano anche di un intervento magari volto anche all'aggregazione. Per esempio, a me è molto interessante è stato l'ambito dello sport popolare all'interno di quartieri popolari, come spinta appunto all'aggregazione e alla crescita della progettualità politica. Poi chiaramente ogni città è a sé stante, il compagno Palermo faceva anche riferimento a una presenza nutrita e sostanziosa all'interno della curva del Palermo. Chiaramente e non credo che in tutte le città si possa riprodurre questo, però appunto capire come si articola sulla città di Catania, che cosa state provando voi a mettere in campo e quali sono magari anche i risultati che avete ottenuto, le criticità che avete incontrato. Sì, allora intanto mi permetto di dire che probabilmente in realtà è abbastanza facilmente riproducibile se il processo è questo, ovvero partire dal territorio, partire dal quartiere per arrivare poi diciamo a affrontare i nodi specifici. Questo per dire che, come dicevo prima, diciamo, il nostro attaccamento alla lotta all'interno dei quartieri ci porta a occupare spazi appunto, quindi centri sociali che dentro i quartieri più specificamente popolari, e da questi derivano una serie di esigenze. Cito il fatto che lo sportello, noi abbiamo uno sportello antisfratto, si chiama Casa per Tutti, e questo sportello, diciamo, nonostante noi ne avessimo molte volte parlato, non avevamo mai avuto la forza, tra virgolette, di lanciarlo. L'anno scorso lo sportello è nato, ed è nato per una stretta, diciamo, richiesta da parte degli abitanti del quartiere, in cui cui operavamo, e quindi la lotta, diciamo, e la presenza dentro i quartieri che fa poi automaticamente nascere fronti di resistenza. Da questo punto di vista dico anche che anche da lì è nata, anche dallo stesso posto, e parlo questa volta del Centro Sociale Contrasto, è nata una tra virgolette alleanza, ma ricerca appunto di confronto con i ragazzi ultras appunto di una delle due curve catanesi, che ci porta appunto a confrontarci con loro e condividere momenti di aggregazione sportiva popolare, ovviamente legati al fatto che convivendo il quartiere e le zone, diciamo, è impossibile non trovare poi i punti di incontro che ci portano a trasformare anche l'aggregazione in qualcosa di più. Dentro l'università e dentro le scuole noi abbiamo un coordinamento che si chiama Caos, anche questo attivo ormai da un paio di anni, che ha provato da zero un po' a rilanciare le lotte su questo fronte. Questo perché ultimamente c'era stato a Catania, diciamo, un vuoto legato soprattutto all'assenza di una componente, diciamo, militante più antagonista, che aveva subito diciamo una repressione un po' forte, e lo sgombero un po' famoso dell'Esperia, che aveva dato, diciamo, una botta a questa componente a Catania. Ecco, dentro le scuole, dentro l'università, da due anni si riprova a fare qualcosa. Chiaramente penso che sia un problema, diciamo, oggettivamente sul nazionale. L'università è un terreno molto più arduo su cui lavorare. È vero anche che, come dice Giorgio, è uno dei punti in cui in realtà si deve e si lavora contro l'emigrazione giovanile. Fare sì e fare prendere coscienza direttamente nel processo di studio che la cultura e l'impegno militante possono essere delle risorse per il territorio e possono essere poi punti di rottura di quelli che sono i meccanismi innescatisi nel territorio in cui viviamo è fondamentale. Per questo noi abbiamo sentito l'esigenza di trovare un confronto più allargato con le realtà del sud, e stiamo cercando di promuovere una o due giorni che parli proprio del sud e del problema migrazione, per provare a darci qualche risposta a livello più generale, con realtà che siano appunto diciamo che portino esperienze anche magari diverse dalla Campania in giù, e possano in primavera incontrarsi a Catania per parlare appunto di, come si diceva prima, di quegli spazi che si possono riconquistare per dare possibilità concrete. Cioè, fondamentale nella dinamica che viviamo, secondo me, è questa, è la differenza nel modo di fare la lotta. Deve essere concreta e quanto più possibile la risposta che la lotta mette in campo e riesce a ottenere. Solo la lotta paga, deve essere un esempio, ma non solo un esempio, deve essere una parola d'ordine a cui non si può prescindere per riuscire ad avere riuscire a ottenere dei risultati. Senti, ti faccio tre domande in una, così non ti interrompo, cerchiamo di fare un botta risposta meno possibile. Allora, mi ha fatto riflettere molto prima l'intervento del compagno di Palermo, che descriveva, come stai facendo anche te, una situazione di disagio, di crisi sociale, economica molto forte nella regione Sicilia, come in tutto il sud Italia. Quindi anche una ripresa della volontà, dell'esigenza di mobilitarsi in prima persona, e quindi anche da un certo punto di vista progetti nuovi che nascono, i punti di riferimento come centri sociali, come collettivi ricominciano o cominciano ad agire in questo senso, appunto come aggregazione e riferimento. Ci viene però da dire sul ragionamento che faceva prima il compagno di Palermo, che ancora non si muove troppo, non da parte dei compagni e delle compagne chiaramente, ma ancora non c'è quell'esplosione di questa rabbia indirizzata e canalizzata contro chi comunque sta gestendo questa crisi a tutto profitto ovviamente dei soliti noti. C'è nella regione Sicilia, nella città di Catania, la metto un po', diciamo così, vaga la domanda, però un qualcosa ancora che fa andare avanti tante persone, che garantisce anche nella mancanza di lavoro, di mezzi di sussistenza, garantisce un minimo di riproducibilità, di possibilità di campare, la mettiamo così. Questa è una prima domanda. E poi un'altra, visto che hai accennato anche a un momento di aggregazione con ragazzi di una delle due curve di Catania, ecco, io ora non vorrei dire una cretinata, però io mi ricordo che nella curva del Catania c'è sempre stato un intervento o comunque una presenza di elementi di estrema destra. Ecco, questo, voi come state riuscendo ad agire anche in questo ambito? È una domanda minimale, però è anche interessante capire, perché nelle prime due corrispondenze che stiamo facendo è venuto fuori questo legame con ragazzi dei quartieri popolari che popolano anche le curve dello stadio. Vabbè, per ora questo, poi eventualmente magari cerchiamo di integrare con qualcosina in più. Sì, sulla prima domanda ti rispondo, diciamo, dicendo due cose. La prima, cerco di essere rapido. La prima è che da un certo punto di vista Catania, più che Palermo, è una città che diciamo si è sempre abituata a tirare a campare, nel senso ha sempre preferito diciamo scegliere un po' degli escamotage per riuscire a sopravvivere piuttosto che esporsi in maniera forte contro quelle che sono le difficoltà. D'altro canto è vero anche che in questo momento c'è un'esplosione in città della violenza sociale forte. Dico, ci sono un esempio, ma non è rappresentativo, però mi fa ridere il fatto che pochi giorni fa il sindaco è stato schiaffeggiato in pubblica piazza per strada mentre camminava, per dire che in realtà c'è un'esplosione vera di una rabbia sociale che in questo momento ovviamente è vero, non è catalizzata poi, e che sta subito venendo repressa in maniera netta. Catania ha visto negli ultimi mesi appunto episodi ma non particolarmente gravi di violenza, per esempio nel centro storico. La risposta è una presenza veramente massiccia di forze dell'ordine costantemente che a presidiare le strade. È diciamo pesante anche l'aria che si respira da questo punto di vista, e sta emergendo oggi, e questo diciamo noi da poco l'abbiamo affrontato nel dibattito cittadino, sta emergendo oggi finalmente, forse secondo noi, la rabbia dei quartieri che si scontra poi col resto con quella parte di città diciamo più centrale o città più bene, che è costretta a fare i conti con questa presenza, e quindi bisognerà vedere adesso come si evolve questa cosa, e sta ovviamente a noi giocarci il nostro ruolo appunto di forza militante che riesce a trasformare questa rabbia fine a se stessa in una consapevolezza diffusa. Per parlare poi invece delle relazioni con la curva, ecco, sì, questa è una domanda interessante ed è difficile rispondere in poche parole. Quello che dico è questo: le curve di Catania sono sempre state fortemente diciamo dirottate o anche presenziate in maniera forte da presenza fascista, non niente più niente di meno, ecco. Ultimamente il fattore repressione all'interno del mondo ultras ha portato a un abbassamento forte della presenza di destra dentro le curve, in maniera soprattutto esplicita. Questo tra virgolette ci permette di intervenire un po' più facilmente. Dicevo prima, non a caso una delle due curve, perché diciamo, no, la situazione nelle due curve non è la stessa. È chiaro che a Catania ha la presenza attiva ormai da un bel po' di anni di uno spazio occupato da una filiale di Casa Pound, si chiama Cervantes, che fa presenza attiva da tanti anni ed è stato parte dello zoccolo duro della curva nei momenti d'oro. Ecco, se da questo punto di vista loro rappresentano la forza militante della destra a Catania, l'altra curva, seppur, ed è quella dove noi siamo presenti, seppur avendo magari una storia legata alla destra, non ha poi, ed è chiaramente ha anche dei rigurgiti, per carità, è inutile dirlo, soprattutto poi per quanto riguarda appunto i periodi come questi in cui l'immigrazione viene vista come un problema, però non ha uno stampo, una presenza soprattutto fascista, di destra, di militanti, che una presenza comunque organizzata, diciamo, non manca in quella, esatto. Che ci dà, tra virgolette, diciamo, lo dico anche un po' così, ci lascia spazio per un intervento che, diciamo, non è sicuramente, penso questo sia chiaro a noi, a loro, a tutti quanti, non è sicuramente trasformare la curva del Catania nelle brigate autonome livornesi, ma vivere i momenti aggregativi cittadini forti, portando dentro quello che sono le esperienze militanti. Certo, no, per chiarire anche con tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, perché chiaramente l'ambito ultra dello stadio magari può essere anche in tanti casi spinoso, un terreno anche scivoloso, però questa domanda, questo magari approfondimento è perché magari appunto nel lavoro politico di un collettivo, di una realtà politica attiva in una città, chiaramente più è complessivo, più è a tutto tondo il tipo di intervento, di iniziativa che si fa e si porta avanti, meglio è. Chiaramente, se si riesce a stare in tutte le contraddizioni esistenti, chiaramente i risultati che si possono ottenere sono maggiori. Per concludere, accennavi prima un incontro che state cercando di organizzare per la primavera con varie realtà del Sud Italia. Questo è molto interessante. Non so se vuoi dire qualche parolina in più, però di sicuro posso dire che i microfoni di Radio Onda Rossa saranno sicuramente aperti a un confronto, un dibattito, anche a capire quali sono i risultati che escono fuori da quell'incontro, appunto perché ci sembra assolutamente importante cercare di mettere insieme vari pezzi di collettivi politici che agiscono nel Sud Italia, magari anche condividendo una base di analisi di fondo e anche le esperienze di ogni città e di ogni provincia che si portano avanti. Sì, parto dicendo che diciamo, è una cosa che deriva da un'esigenza concreta ed è anche il motivo per cui stiamo facendo questa intervista. Noi subiamo costantemente l'emigrazione dentro la progettualità del militante. Ultimamente, negli ultimi mesi, pochissimi, in un paio di mesi sono andati via tre compagni tra virgolette storici che ci hanno fatto diciamo fermare più del solito su un'analisi di questo problema e interrogarci, e pensiamo che sia un problema diffuso che va analizzato insieme a chi il sud lo vive costantemente. Sappiamo che già in passato ci sono stati momenti di incontro tra diverse realtà del Sud Italia. Ultimamente anche a livello studentesco è nata spontaneamente l'esigenza di interrogarsi su delle risposte comuni a problemi anche un po' diversi, particolari. Allo stesso tempo, per quanto riguarda gli sportelli per la casa, che vivono dinamiche leggermente diverse rispetto a quelle del nord, rispetto alla percezione che si ha dell'occupazione della casa qui al sud, che è un fattore probabilmente in realtà radicato a un livello però non di lotta ma di esigenza, ma che poi ha difficoltà a trasformarsi in contrapposizione reale. Allora da questo abbiamo pensato che forse fosse il caso di incontrarci con più realtà possibile, appunto, in primavera, e provare in 1 o 2 giorni a sviscerare un pochettino delle soluzioni comuni che possano portare alla ribalta sul nazionale il tema dell'emigrazione, diciamo, giovanile, soprattutto da parte dei ragazzi del sud. Va bene. Ti ringraziamo tantissimo per questa corrispondenza e ci salutiamo. Chiaramente ti ribadisco, i microfoni di Radio Onda Rossa saranno apertissimi a ospitare un dibattito, chiaramente telefonico, su questi 2 giorni che provate a costruire per la primavera, chiaramente magari utilizzando anche il canale diretto che abbiamo stabilito io e te, appunto. Se non cerchiamo noi voi, magari cercateci voi a noi, appunto, per avere uno spazio qui dai microfoni di Radio Onda Rossa. Ti saluto con questo, abbiamo altre 2 corrispondenze da fare, e io mando un breve stacco musicale e a presto. Grazie, a presto. Ciao. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, picchiano bastoni e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, picchiano bastoni e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, picchiano bastoni e tira fuori i denti. Un servo tempo fa, d'inc'anna piazza, pregava a Cristo un croce e ci dicea: Cristo lume pagioni mi trapazza, mi tratta come un cane per la via. Si piglia tutto con la sua manazza, manco la vita mia, dici che è mia. Distruggila Gesù, sta malarra. Distruggila Gesù, fallo per mia, fallo per mia. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, picchiano bastoni e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, picchiano bastoni e tira fuori i denti. Cristo mi risponde dalla croce, perché si sono spezzati di tua brazza. Chi vuole la giustizia si la faccia, nessuno ormai più la farà per te. Testa bassa, ascolta bene sta sentenza mia, che io un chiurato un cruci non saria. S'avessi fatto ciò che dico a Dio, che io un chiurato un cruci non saria. Bastoni e tira fuori i denti, tu ti lamenti, ma che ti lamenti, picchiano bastoni e tira fuori i denti, tu ti lamenti, ma che ti lamenti, picchiano bastoni e tira fuori i denti, tu ti lamenti, ma che ti lamenti, picchiano bastoni e tira fuori i denti. Allora ritorniamo in onda con questa nuova trasmissione per Radio Onda Rossa. Abbiamo appena sentito due corrispondenze, una da Palermo, una da Catania, con cui abbiamo affrontato tanti discorsi. Sicuramente abbiamo cercato di approfondire il più possibile la situazione economica e sociale della regione Sicilia, e abbiamo anche analizzato un attimino le progettualità politiche dei collettivi sia nella città di Palermo che in una parte della città di Catania. La volontà di questa, di questo tipo di trasmissione, è quella di cercare di avere lo spettro un po' più ampio possibile. Per questo abbiamo anche un'altra corrispondenza da Catania, di un compagno che collabora con Officina Rebelde, che, se non vado errato, è un altro collettivo che agisce sulla città di Catania. E allora io magari con questo compagno entrerei fin da subito nello specifico della progettualità politica, per poi magari riallargarci eventualmente ad aggiungere, aggregare qualche cosa in più rispetto all'analisi generale che si è fatta fino a questo momento. Ci senti? Sì, sono Gian Piero da Catania, ciao a tutti. Ciao, buona giornata. Catania, io non so se l'intervento che c'è stato prima si è spiegato un po' la situazione. Catania è una città veramente difficile, diciamo che divisa in due, c'è da una parte il quartiere centrale, che è proprio la città salotto, molto europea, e dall'altra poi c'è la Catania vera, che sono tutti i quartieri che sono, in particolare ci sono quartieri veramente disastrati, ad esempio Librino è un quartiere di 70.000 abitanti dove praticamente non c'è niente, solo cemento, è una specie di quartiere satellite praticamente attaccato alla città, ma in effetti separato da, come se una barriera culturale gigantesca, insomma. E Catania è una città ovviamente dominata da un sistema di potere mafioso che ha agganci un po' dovunque, in cui il riciclaggio è particolarmente attivo, soprattutto nella zona, per quello che riguarda le attività commerciali, eccetera, diciamo un commercio particolarmente inquinato. Io collaboro da un po' di anni con Officina Rebelde e con Coordinamento Numuos. Officina Rebelde è particolarmente attiva alla sede proprio al centro di Catania, e particolarmente attiva all'università, con le lotte universitarie e con le lotte per lo sfratto alla casa, più a altri servizi, agisce come un vero e proprio centro sociale, c'è il dopo scuola, la biblioteca, insomma, tutta una serie di attività. E senti, siamo stati particolarmente attivi col Coordinamento Numuos in questi ultimi anni, e diciamo è un percorso molto difficile che stiamo portando avanti, diciamo, dopo tutta una serie di mobilitazioni, decine, centinaia di denunce, diffide, fogli di via, diciamo sarebbe ora che questo movimento iniziasse ad assumere un po' una parvenza meridionale, perché fino a questo momento, diciamo, è stato molto localizzato. Diciamo, le grosse mobilitazioni sono state sostenute soprattutto dai compagni siciliani, qualche calabrese, ma ancora non abbiamo visto, diciamo, la grande massa meridionale. Purtroppo questo è un discorso che secondo noi deve essere affrontato da tutto il movimento, è un discorso che appartiene dalla, ovviamente, lotta contro la guerra e contro le basi militari, insomma, diciamo. Beh, sì, su questo per esempio abbraccia un po' tutto, sì. Se ti posso interrompere, un compagno di Palermo, sì, sì, che abbiamo sentito prima faceva l'esempio di, magari chiamiamoli comitati, comunque Numuos, che sono nati in altre città del paese, quindi non in Sicilia, e che sono composti per la maggior parte da compagni e compagne siciliani che sono emigrati negli anni, che quindi hanno stabilito la propria vita nelle città, appunto, dove sono ora, e da lì cercano di sostenere e supportare la lotta Numuos. Però diciamo, prima, in qualche caso, sì, l'immigrazione, sì, forzata porta dei benefici in questo, esatto, caso. Infatti era proprio questo uno delle cose che siamo andati a approfondire fino ad ora. E facendo un passettino indietro rispetto a quello che hai detto te, e prima ci interrogavamo e ci ha fatto molto ragionare scusami, l'intervento del compagno di Palermo, è una domanda che abbiamo anche messo un po' in maniera vaga all'altro compagno che ti ha preceduto di Catania, e c'è una situazione di crisi oggettiva enorme nel sud Italia, molto più che per certi aspetti e chiaramente rispetto al centro nord, e perché comunque c'è da dire chiaramente che se noi ora in questa trasmissione e nelle immediate prossime che verranno analizziamo la situazione al sud, chiaramente non è assolutamente per dire che il sud sta troppo peggio del centro nord, perché la situazione di crisi che si vive nel paese è non condivisa, scusatemi, però è generale. Abbraccia tutte le regioni del paese, chiaramente, però appunto quello che stiamo facendo è analizzare le specificità del sud, e chiaramente però in questa situazione di crisi, in questa situazione magari anche di una minima riattivazione popolare su alcune richieste, sulla base di alcune lotte, c'è però anche da registrare un dato di fondo, che non c'è stata ancora purtroppo un'esplosione della rabbia canalizzata magari contro i veri responsabili di questa situazione economica, e ci domandavamo quanto possano influire determinate dinamiche all'interno del sud Italia che magari possono ancora garantire un minimo di sussistenza alle persone nelle città e nei paesi, persone che magari non trovano un lavoro ordinario, fra virgolette, mettiamola così, e che però comunque hanno ancora la possibilità di tirare a campare. Ecco, la metto anche questa volta in modo assolutamente vago, per cui magari con te possiamo anche cercare di analizzare questo aspetto. Beh, non è che ci sia molto da dire qui in una città come la nostra, Catania, dove le contraddizioni ovviamente sono spesso più evidenti che in altre città ovviamente del nord, e qui da noi una delle principali fonti di reddito per migliaia di persone, centinaia di famiglie, è ovviamente lo spaccio, quindi quasi tutti i quartieri ovviamente sono dominati da varie cosche, varie famiglie mafiose che gestiscono questo spaccio, che è ovviamente una fonte di reddito enorme. E ovviamente quando queste famiglie, a cui viene in qualche modo garantita la sopravvivenza grazie a questa incredibile fonte di reddito, e quando a queste famiglie viene chiesto di votare, questi votano compatti, è ovvio. C'è tutto un sistema che è basato anche su una sorta di solidarietà, la solidarietà verso i carcerati, la solidarietà verso quelli, le famiglie che hanno perso un componente. La mafia in questo ha sempre agito, come dire, con una certa intelligenza, e questo garantisce anche l'apporto elettorale quando è richiesto. Sì, ma mi permetto solo di dire che hai usato un termine, solidarietà, che magari non lo intendi assolutamente alla maniera della solidarietà vera, quella che esiste fra appunto mi permettevo che... solo per chiarire, sì. No, è chiaro che ovviamente parliamo di un do ut des, esatto. Quindi in qualche modo poi queste famiglie sono, come dire, ricattate psicologicamente. Questo tipo di solidarietà ovviamente è un pretesto per esigere il pizzo, per garantirsi una sorta di potere, che comunque non è un contropotere, perché la mafia, per come la intendiamo noi, diciamo, c'è una bassa manovalanza che è quella che poi ovviamente si vive tutta la repressione, e poi ovviamente c'è il livello alto che quindi stiamo aggiungendo un pezzo di analisi in più rispetto alla situazione della vostra regione, chiaramente, e questo è anche un punto interessante di questa trasmissione, perché andando avanti con le corrispondenze escono mano a mano fuori tanti pezzi, chiaramente, che credo che anche i compagni che sono intervenuti prima ne tengano conto assolutamente di questi ragionamenti qua. Chiaramente poi appunto per motivi di tempo non è che si può con ognuno di voi che andiamo a chiamare a analizzare tutto, però questo chiaramente è un pezzo in più. E infatti la situazione che si sta vivendo nel sud, ma anche in tutto il paese, viene da un sistema economico, sociale e politico basato sullo sfruttamento e l'oppressione, che sta gestendo, possiamo dirlo chiaramente, questa crisi per aumentare i profitti dei soliti noti e mantenere nell'indigenza milioni e milioni di persone. A questo, nelle regioni del sud, si aggiunge un potere anche invasivo, no? E che credo che si possa dire assolutamente questo, un potere ancora più invasivo che impedisce da un certo punto di vista anche una dinamica di ribellione, rivolta contro lo status quo. Certamente, che quindi sappia aggredire la situazione. Perfettamente, purtroppo ripeto è un problema complesso e esaurirlo in poche parole è difficilissimo, però effettivamente qui esistono due sorte di potere che sono ovviamente contigue e che bloccano spesso molte iniziative. Non dimentichiamo nel passato le morti eccellenti a Catania, in particolare appena si è cercato a provare a fare un po' di informazione altra. Qui abbiamo anche questo grossissimo problema, il monopolio dell'informazione gestito da Ciancio, uno che era in affari con Costanzo, inquisito per mafia. Insomma, parliamo di un grosso blocco di potere che non è mai stato scalfito né da Tangentopoli né dai vari scandali si sono succeduti da a questa parte, quindi proprio un potere solido e duraturo che di fatto gestisce tutta l'informazione nell'isola. Quindi chiunque prova anche a scalfire questo mondo, ovviamente parliamo di ad esempio Giuseppe Fava, chiaramente viene immediatamente fatto fuori. Quindi ci sono due tipi di potere, uno legale e l'altro illegale, ma che comunque fanno sempre lo stesso gioco. Senti, prima nella chiamata prima il compagno ha esplicitato un dato ovviamente riferito alla loro situazione politica, del collettivo Aleph e di tutte le progettualità che porta avanti, che si basa chiaramente appunto l'applicazione nello specifico di un dato generale che è quello di cui parlavamo prima, dell'emigrazione forzata dalla Sicilia e dal sud verso il centro nord e anche verso l'estero. Ecco, quello che ti chiederei è quanto sta incidendo sulla progettualità della collettività con cui tu collabori, di cui tu fai parte, questo problema dell'emigrazione, per cui molto più esplicitamente se negli ultimi tempi, mesi, anni si sono verificati e quanto casi di compagni e compagni anche molto attivi, chi più chi meno, che sono dovuti per forza di cose emigrare. E poi l'altra domanda chiaramente è se rispetto al quadro minimo generale che ci hai descritto prima, se puoi andare ad approfondire alcune delle iniziative politiche che portate avanti nella città di Catania. E allora, riguardo il discorso dell'emigrazione, io ho una certa età, quindi diciamo ho visto parecchie generazioni di soprattutto studenti universitari ovviamente essere costretti nella stragrande maggioranza dei casi a dover andare a lavorare altrove. Qualcuno di questi torna portando anche un bagaglio di esperienze preziose, quindi in qualche modo c'è anche un, come dire, piccolo risvolto positivo. E poi anche quella cosa che dicevamo rispetto alle lotte che si fanno in Sicilia, che vengono in qualche modo esportate anche da questi nostri compagni. Purtroppo è un problema ovviamente che riguarda soprattutto quella generazione di studenti universitari, sono i primi, ma ovviamente anche tutto il resto dei compagni. È una cosa con la quale facciamo i conti da sempre e che di fatto purtroppo è una cosa peculiare del sud. Ovviamente noi dal dopoguerra, ma anche prima in poi, abbiamo sempre vissuto questo fenomeno della migrazione. Io stesso sono vissuto per tanti anni a Roma, poi ho deciso di tornare a Catania. E riguardo il discorso della progettualità politica, noi quello che facciamo essenzialmente sono lotte che riguardano il discorso della casa, lotte studentesche e poi questa cosa del coordinamento Numus, che sono le fasi centrali. Fino all'altro giorno eravamo a Niscemi, abbiamo appoggiato questo sciopero sociale. Il nostro prossimo obiettivo sarebbe anche di discutere di fare come minimo un coordinamento nazionale di tutte le realtà in lotta contro la devastazione del territorio, contro la guerra, contro le servitù militari, e magari portare la protesta a Roma se questa, e quindi diciamo stiamo lavorando in questo senso. Senti, Uno degli argomenti che ancora non abbiamo approfondito riguarda, diciamo, forse magari problema centrale della nostra società, di questo sistema in cui viviamo, cioè il conflitto capitale e lavoro. Non so se voi nella città di Catania avete intercettato o comunque supportato, sostenuto lotte di lavoratori e lavoratrici, qualsiasi forma esse si siano presentate. Ecco, se magari ci puoi dire questo, e magari anche un breve quadro, brevissimo, sintetico, di eventuali lotte di lavoratori e lavoratrici che si portano avanti nella regione. A questo punto mi sembra anche di capire che si può parlare a tutto tondo con te, per cui non penso che, penso che possiamo non limitarci solo alla città di Catania. No, vabbè, certo, io un attimo un po' il quadro della situazione, ma rispetto alle lotte dei lavoratori, da noi purtroppo parliamo ovviamente di lotte di precari per un minimo di posto di precarietà, perché qua c'è veramente una realtà che dal punto di vista lavorativo ormai è agli sgoccioli. Noi, insomma, c'è effettivamente una penuria nel campo del mercato del lavoro che è incredibile. Quindi abbiamo appoggiato alcune lotte, io personalmente, più che Officina Rebelle, che diciamo si occupa insomma, in particolare quelle appunto dei servizi telefonici, e poi ci sono state queste vertenze che hanno coinvolto tutta una serie di lavoratori dipendenti dai servizi comunali. Devo dire che in questo campo abbiamo molto ancora da lavorare, siamo in ritardo e soprattutto non abbiamo mai avuto la capacità di metterci realmente in questo tipo di discorso. Ecco. Beh, io personalmente lavoro con i COBAS sono abbastanza presenti sia nel sindacato scuola sia nel settore sanità. Per gli altri settori un po' da noi latitano, ecco. Certo, quindi chiaramente questo, appunto, cercando di vederla più in positivo possibile, è un campo su cui intensificare e aumentare l'iniziativa politica, chiaramente. Sì, tenendo anche conto, chiaramente, di quello che dicevi te, cioè l'ha messa molto così, siamo agli sgoccioli, diciamo, sul mondo del lavoro, la regione Sicilia. E potrebbe non essere così in futuro, perché i risvolti, le tendenze che magari il capitale industriale italiano ed estero forse può anche cercare di approfittare di un dato di disoccupazione. Prima all'inizio, nell'introduzione, abbiamo dati per il Sud Italia, il dato ufficiale è del 19,7%, però se si tiene conto aggiungendo a queste disoccupati ufficiali coloro che non hanno effettuato ricerca, lo ripeto per gli ascoltatori e le ascoltatrici, si parla di un dato del 31,5% di disoccupazione, tasso di disoccupazione nel Sud Italia. Questo a livello nazionale? No, questo è al Sud, perché al centro-nord è, diciamo, tra il 9,1 come dato ufficiale e il 13% come appunto dato più complessivo, più ampliato del tasso di disoccupazione. Chiaramente mi permetto di dire anche percentuali più drammatiche. Comunque sì, sì, poi si va a specificare la situazione anche regione, città per città. Il dato, chiaramente, si arriva alla disoccupazione giovanile che va sul 50%. Questa è una media, chiaramente, anche perché questo è uno dei dati che non ho approfondito, però nella media della disoccupazione del Sud, per esempio, c'è anche da contare l'Abruzzo, che in realtà è una regione che ha una differenza enorme rispetto a tutte le altre regioni, che viaggia molto meglio, ha addirittura una crescita da questo punto di vista, per cui un'occupazione maggiore, per cui appunto si fa una media, chiaramente è probabile che... Sì, ovviamente, ecco. Noi abbiamo punte, diciamo, vette alte, soprattutto in certi... Esatto, chiaramente questo... si va sull'aleatorietà, su qualche cosa che non dipende da noi, per cui noi magari in questo momento non possiamo conoscere, però si può anche pensare che un domani il capitale provi a sfruttare questo enorme e gigantesco esercito di riserva, e come tra l'altro già sta succedendo in varie parti del paese, per da una parte abbassare i salari, dall'altro cercare di aprire nuovi posti di lavoro, appunto, con contratti assolutamente a tempo determinato, precari di ogni tipo, che non garantiscono nessun futuro ai lavoratori e alle lavoratrici, ma garantiscono, l'unica cosa che garantiscono è lo sfruttamento e un minimo, ma minimo proprio, di sussistenza. Ecco, cioè, chiaramente tu dicevi è una situazione del mercato del lavoro, agli sgoccioli qualcosa si dovrà pur fare, per questo chiaramente prima di tutto quello che succede nel paese che ci racconta la situazione lavorativa di conflitto nei luoghi di lavoro e quello soprattutto di lotte che cercano di difendere il posto di lavoro. Mi permetto anche di dire che perché noi con la trasmissione Corrispondenza Operaia cerchiamo ogni lunedì di analizzare questa situazione, mi permetto di dire che una lotta assolutamente difensiva che arriva a esplicitarsi nel momento in cui già arrivano le lettere di licenziamento e gli annunci di chiusura degli stabilimenti non può che essere, non dico fallimentare, ma va incontro a sconfitta quasi certa. In alcuni settori chiaramente però invece si sta cercando di fare il contrario, cioè di aggredire fin da subito la situazione oggettiva di sfruttamento e di oppressione nei luoghi di lavoro, cercando di strappare qualcosina e magari anche riuscire ad arrivare un po' più preparati al momento in cui magari il padrone annuncia chiudo, vado da un'altra parte, trasferisco la produzione e qui non mi interessa più. Cioè questo è un punto d'analisi che si può utilizzare per cercare di agire politicamente sul conflitto capitale-lavoro nelle regioni del sud? Sì, chiaramente è un discorso sul quale ragioniamo da sempre. Purtroppo la delocalizzazione da noi è ancora più evidente, nonostante qui il costo della forza lavoro sia leggermente inferiore rispetto al nord. Quindi nonostante questo, ovviamente da noi, soprattutto per quello che riguarda tutta una serie di settori, la telefonia, sì, ovviamente si pensa di trasferire tutto nei paesi dell'est e quindi in questo senso ci sono lotte, ovviamente, che però io non credo che abbiano grosse prospettive in realtà, finché non ci sarà una saldatura di intenti con tutta una serie di settori che remano contro questa deriva incredibile che ci stiamo vedendo, finché non ci sarà una unione di capacità di mobilitazione grossa, diciamo, io purtroppo non posso che essere pessimista, ecco. Va bene, senti, noi ti ringraziamo per questa corrispondenza, abbiamo l'ultima da fare, andiamo a Messina, quindi saliamo un po' più a nord e appunto ti ringraziamo, ti salutiamo e grazie a tutti. Ci sentiamo presto, ciao, buona giornata. Ciao. Allora, ritorniamo in onda. E come anticipato, ci trasferiamo in maniera figurata un po' più a nord, andiamo nella città di Messina. Abbiamo in collegamento un compagno del Teatro Pinelli che fino ad ora ha ascoltato la trasmissione, per cui sicuramente andrà ad integrare, aggiungere e contribuire al dibattito che si è prodotto fino a questo momento. Chiaramente, appunto, dal punto di abbiamo analizzato il livello generale per la regione Sicilia e per il sud, questa situazione economica e sociale. Com'è la situazione nella città di Messina, nella provincia? Se si discosta un po', se c'è qualche specificità in più da analizzare e da chiarire. A te la parola, buongiorno. Buongiorno Francesco, grazie, sono Massimo appunto del Teatro Pinelli. Sì, come diceva Francesco, avrei un sacco di cose da dire, quindi cercherò di essere ordinato e di non dimenticarne alcuna. Per iniziare, appunto, una piccola precisazione riguardo alle specificità di Messina, che ovviamente condivide il quadro generale delle città siciliane per quello che riguarda l'emigrazione, per quello che riguarda anche, forse addirittura, però questo appunto non è in qualche modo, diciamo così, un dato definitivo o sicuro, però certamente è una città che ha una crisi economica spaventosa. In questo momento il comune è sempre sotto assedio da lavoratori di ogni tipo giornalmente, e quindi, diciamo così, il quadro generale non è molto dissimile. Ci sono alcune però specificità che mi piacerebbe sottolineare, perché secondo me sono utili appunto alla discussione fatta fino adesso. La prima è meramente, diciamo così, geografico-storica. Messina è una città che, a differenza di Palermo e di Catania, più di Palermo, Catania ha subito per esempio un grosso terremoto alla fine del 600, però stiamo parlando appunto di oltre 300 anni fa. Messina è stata devastata da un sisma all'inizio del secolo scorso, nel 1908. Questo l'ha ridefinita, diciamo così, geograficamente, per cui sulla questione di centro e periferia è diventato un interessante laboratorio, soprattutto per chi il potere lo ha detenuto e lo ha amministrato, per cui, diciamo così, i quartieri sono stati in larga parte, soprattutto quelli centrali, come dire, interrotti e parcellizzati in modo che non costituissero, che perdessero quella dimensione comunitaria e sociale che comunque avevano storicamente. Questo però ha consentito il fatto che Messina ha una grandissima estensione geografica, il comune, ed è sempre stata articolata questa storicamente con un centro e dei villaggi, un po' per intenderci come Roma, molto più in piccolo, quindi con dei borghi staccati dal centro che avevano un'osmosi diretta ovviamente col centro cittadino, ma che avevano anche una loro autonomia. Questo ha fatto sì che, diciamo, questi borghi, questa periferia storica della città acquisisse ancora di più una certa autonomia, che rispetto al discorso che si è fatto fino ad adesso è una specificità che mi interesserebbe sottolineare. Vengo subito al perché. Perché la questione che si è detto: come mai non è esplosa la rivolta? Cioè, ci sono numeri di disoccupazione attiva talmente enormi che ci si chiede effettivamente come non esploda la rivolta. La prima considerazione che ha fatto Gian Piero poc'anzi mi trovo assolutamente d'accordo, cioè uno Stato antistato, che poi quanto sia antistato questo sarebbe un altro dibattito, però comunque ovviamente offre in qualche modo anche una certa dimensione economica, passatemi il termine tra virgolette. Vi è però un altro aspetto che è stato accennato da Giorgio che trovo molto interessante, che è quello, diciamo così, di una sorta di mutualismo sociale, se potessimo così definirlo, che da sempre nei quartieri storici delle città siciliane, ma non solo, anche dei centri rurali, è sempre esistito. Io credo che questo è un aspetto importante, perché potrebbe anche dare delle linee, dei riferimenti ai compagni che lavorano sui territori, proprio perché potremmo definirla una forma in qualche modo di autogestione. Io, oltre alla mia militanza politica, mi trovo a lavorare, come proprio lavoro, all'interno di uno di questi quartieri, e noto quanto sia praticamente una sorta, anche qui passatemi il termine tra virgolette, di ammortizzatore sociale la dimensione mutualistica che in alcuni quartieri è presente, che diventa proprio una forma di autointervento nella disperazione, che ovviamente è erosa dal fatto che questa crisi è lunghissima e ha devastato qualunque apparato economico siciliano, già molto povero, già molto eroso di suo, che però in qualche modo ancora è una dimensione che regge. Un'altra sottolineatura che volevo fare rispetto a un percorso, anche se è marginale, non di massa, però interessante, che Messina ha prodotto negli ultimi anni, è quello di una grossa vertenza, una vertenza storica in questa città, che era quella della birra Messina, che era appunto un'industria fiorente un tempo della città, che è stata, dopo vari passaggi, diciamo così, chiusa e dismessa dagli stessi imprenditori che l'avevano in una prima fase recuperata per toglierla alla Heineken, che l'aveva invece sussunta. E il percorso che noi come Teatro Pinelli abbiamo anche seguito, a cui abbiamo anche partecipato, che è diventato un interessante però laboratorio cittadino, è un percorso ancora in itinere, per cui i lavoratori si hanno deciso non più di abbandonare la fabbrica, ma dopo mesi di picchetti hanno attivato un percorso per cui si sono organizzati in cooperativa e hanno utilizzato tutti i fondi che avevano, cercando anche con una sottoscrizione popolare cittadina appunto la solidarietà della città, e sono adesso nelle ultime fasi della riattivazione di una quello che sarà chiamato birrificio Messina, appunto, come dire, un esperimento da cui, attraverso il quale, alla disperazione, riarrivare a una fase della lotta che non è solo, tra virgolette, ancora vertenziale, ma che diventa anche una proposta e una possibilità per la città tutta. Tanto è vero che altre vertenze a queste si sono, purtroppo con esiti differenti, ricordo anche noi come Teatro Pinelli abbiamo supportato e sostenuto un'altra vertenza, che era quella della Sicilia Limoni, in cui anche qui gli operai avevano chiaro l'idea di presidiare per evitare di perdere quella che era la possibilità che avevano. E infatti l'imprenditore voleva togliere, diciamo così, i macchinari, asportare i macchinari dall'edificio per poterci speculare, e loro organizzarono picchetti a cui partecipammo per come dire, opporsi a questo livello, comprendendo che dentro quei macchinari c'era un'ipotesi, una possibilità per il loro futuro. Secondo me, diciamo, questi due aspetti in qualche modo complessificano ulteriormente, ovviamente, la questione che era stata posta, però possono essere anche come dire, una parziale risposta rispetto al fatto che il sud, ovviamente qualunque parte del mondo, è molto complesso e complicato. Ecco perché la rivolta tarda a partire, perché ci sono forme di, mi consento di usare questa parola, ovviamente, diciamo, ampliandola di senso e anche un po' forzandola, di auto-organizzazione nei territori, che sono alcune disparate, alcune assolutamente, come dire, da avversare, altre invece molto interessanti, perché possono consentire, diciamo così, ai compagni di entrare dentro un tessuto e un territorio, comprenderlo e anche imparare da questo. Spero di essere, diciamo così, stato chiaro. Sono, diciamo, delle situazioni su cui, riguardo, scusami, diciamo, ad alcune cose mi erano state evocate dagli interventi precedenti. Anche sulla questione della emigrazione, vorrei dire una cosa, che ovviamente, diciamo, anche qui il dato complessivo è assolutamente simile a quello registrato e dichiarato sia dai compagni palermitani che da quelli catanesi. Io stesso, come appunto Gian Piero diceva, sono stato un migrante, ho vissuto in Emilia Romagna per circa 6 anni, dove ho fatto appunto il militante, però poi a un certo punto sono tornato nel convincimento che non si potessero abbandonare i territori, che continuare ad arricchire territori già più ricchi anche dal punto di vista politico comunque segnava una responsabilità che sentivo, e quindi ho deciso di ritornare, ma come me altri compagni e compagne lo hanno fatto, e da questo appunto si sono poi attivati percorsi, alcuni dei quali sono ancora per fortuna in vita. Ma una forse una specificità, non lo so, forse semplicemente siccome è un aspetto in qualche forma secondario, non è stato segnalato né dai compagni Catania né da quelli di Palermo. Una cosa che negli anni però abbiamo sicuramente, che ci ha arricchito e che ci ha consentito in molti momenti di resistere, è stato anche il processo inverso, cioè molti compagni e compagne che attraversavano, probabilmente Messina in questa una sua peculiarità, è una città di attraversamento, la città dello stretto, una città che per cui se vieni in Sicilia ci devi passare, diciamo così, tranne che decidi di volare. E quindi negli anni appunto noi siamo entrati in contatto con molti compagni e compagne, che alcuni dei quali hanno anche deciso di stare qui, di attraversare l'esperienza di lotta che hanno incontrato in questa città, e sono stati in moltissimi casi fondamentali. Quindi addirittura rispetto a quanto è stato detto, ovviamente facendo salva la parte che ha visto anche il processo inverso, ovviamente molti compagni e compagne andarsene per anni, alcuni tornare, alcuni no, però registro anche il fatto che molte persone hanno deciso di vivere questo territorio e portandoci anche esperienze nuove. Penso ad esempio a compagni che nei mesi scorsi, ancora adesso questa esperienza resiste anche se è un po' in crisi, hanno deciso di occupare un villaggio ormai abbandonato, un villaggio appunto rurale di quelli che descrivevo prima, però ormai del tutto spopolato, nella periferia nord della città di Messina, e hanno stabilito, diciamo così, lì, si sono stabiliti lì cercando di recuperare sia un aspetto storico-culturale che anche un aspetto tra virgolette produttivo, cioè legato per esempio a una dimensione produttiva fondamentale di tutta la Sicilia, che è quella ovviamente agricola. Scusami. No, è che magari domande che hai da farmi continuerei. Sì, però magari appunto puntualizziamo due dei punti che hai tirato fuori fino a questo momento. Da un lato, sull'ambito quello della, come dicevi te, della forzatura della parola auto-organizzazione, però mi sembra che siano delle basi, no? E di anche socialità materialmente, di quindi non parcellizzazione, individualizzazione frenetica come in realtà è una situazione diffusa in tutto il paese, che però siano delle basi su cui appunto, come dicevi te, si possa agire per cercare di costruire un qualcosina di più. Dall'altro lato, questo che dicevi proprio in queste ultime battute, c'è da considerare eventualmente l'emigrazione in, diciamo, nella relazione interno-esterno, nel senso che se è vero che migliaia, centinaia di migliaia di persone ogni anno emigrino dal sud, che tanti compagni e compagne pure debbano andare via dalla propria città verso il centro nord, chiaramente poi ha dei risvolti positivi, questo anche Giampiero prima lo metteva in evidenza, cioè di compagni che poi ritornano a casa, ritornano nella propria terra portandosi da un lato il bagaglio culturale anche di esperienze politiche da mettere a frutto poi nella propria città, ma che poi credo che abbiano anche creato delle reti nelle città e nelle province in cui hanno vissuto per tanti anni, reti che poi possono essere appunto anche in questo caso essere messe a frutto per cercare di dare un respiro anche un po' più ampio alle lotte che poi vengono portate avanti. Questo mi sembrava appunto da puntualizzare, da fissare questi punti. Semplicemente una battuta proprio per approfondire proprio quest'ultimo aspetto. Appunto la questione è che in qualche forma questa osmosi, diciamo, appunto come dicevi tu bene, dentro fuori, consenta proprio anche in probabilmente provochi, eliciti anche un processo di, appunto, quello che dicevo prima, emigrazione così inversa. Che cosa che però metterei in relazione con l'altro punto, cioè la questione appunto della auto-organizzazione tra virgolette all'interno dei territori, proprio perché quella che poi appunto è stata la nostra esperienza al di là dell'intervento appunto sui territori che tu ti prefiggi, che utilizzi partendo dall'analisi che fai sui territori, molto hai da imparare. Su questo appunto l'occupazione di questo borghetto che si chiama Massa San Nicola è un esempio, ma un altro esempio è legato alla questione dell'abitare nella città. Anche noi siamo abbastanza attivi riguardo il fronte appunto delle occupazioni di case, ma comunque il movimento per la casa in generale. È un esperimento appunto fatto insieme ad altri soggetti, ad altri collettivi che specificatamente lavorano sulla questione casa, è stata l'occupazione ancora esistente da parte di alcuni nuclei familiari di una scuola abbandonata nella primissima periferia nord di Messina, Paradiso si chiama, tant'è vero che la casa ha preso nome di Casa Paradiso, che è diventata essa stessa un laboratorio che ci ha in qualche modo scavalcato, cioè da posto legato appunto all'abitare è diventato in una prima fase anche un posto da cui fare ripartire la lotta sulla questione casa in senso lato, cioè si facevano assemblee cittadine anche abbastanza partecipate che appunto hanno avuto il merito di coinvolgere soggetti anche con percorsi e vissuti diciamo così politici non sempre contigui e non sempre simili, che però hanno creato una situazione diciamo positiva almeno per il porsi del problema abitativo nella città, che è sentitissimo, come già ovviamente questo è condiviso sia con Palermo che con Catania. E poi hanno anche utilizzato delle forme, noi ci abbiamo come Teatro Pinelli per esempio abbiamo cercato anche di stabilire un'osmosi e abbiamo fatto degli spettacoli all'interno della struttura, cosa molto interessante. In più loro hanno attivato, si sono auto-organizzati appunto rispetto al fuori, hanno pulito tutta un'area che era antistante alla scuola, hanno organizzato una autoproduzione orticola che in qualche modo contribuisce anche a sostenere i bisogni degli abitanti della casa. Dico, è ovviamente un esempio del tutto, come dire, secondario se vogliamo in termini soprattutto quantitativi per la questione dei problemi legati all'abitare all'interno delle città, soprattutto del mezzogiorno, però secondo me è interessante sottolinearlo perché talvolta per l'appunto troviamo nei rapporti con le persone con le quali andiamo a fare le lotte stimoli e soluzioni tra virgolette che in primis non avevamo pensato. Altra cosa che volevo, posso continuare? Certo, vai. Ok, allora altra cosa che invece volevo sottolineare, che era stata posta anche nei termini appunto della contraddizione capitale lavoro, è una cosa a cui noi a Messina da tempo già riflettiamo, probabilmente anche perché storicamente coinvolti in una grandissima mobilitazione che è stata la mobilitazione contro la costruzione del ponte, che è la questione diciamo del terzo elemento che indissolubilmente diciamo così si lega a questa discussione, che è quella dell'ambiente, per vari motivi. Il primo motivo ovvio, credo conosciuto sicuramente in tutto il sud e credo in tutta Italia, è che molto spesso il ricatto occupazionale fatto nelle aree più depresse del paese si sono consentiti delle vere e proprie devastazioni e distruzioni dell'ambiente dentro il quale, dei territori dentro i quali viviamo. Da questo punto di vista è chiaro il primo riferimento appunto lo avevo fatto sul ponte, ma adesso è attivo e sta crescendo un movimento popolare non sulla città ma sulla provincia, però nell'immediata diciamo parte legata alla periferia nord della stessa città di Messina, proprio immediatamente dopo la città, che sono appunto due mobilitazioni connesse e molto forti riguardo appunto la devastazione territoriale. Il primo è quello della raffineria di Milazzo, credo che tutti voi abbiate sentito dell'ultimo incidente, è una raffineria pericolosissima, fatta a ridosso di un centro abitato con oltre 35.000 abitanti, ma all'interno, appunto, come dicevo, è di un'area abitatissima che coinvolge la stessa città di Messina, quindi stiamo parlando di centinaia di migliaia di persone, ed è una centrale che produce addirittura idrogeno, quindi di una pericolosità, diciamo così, tra le poche al mondo. È collegato, diciamo così, non disgiunto da questa mobilitazione per la chiusura immediata della centrale di Milazzo, vi è anche la questione legata all'elettrodotto Terna, che capiamo bene non essere una specificità solo siciliana, però qui raggiunge una forma incredibile, perché ne esistono già due, uno già attivo, uno da attivare, e uno e vi è già la progettazione per un terzo. Anche rispetto a questo, una sottolineatura che va fatta è che questo, peraltro, ovviamente, diciamo così, cosa assolutamente secondaria, ma non produce alcuna ricaduta economica sui territori. Qui stiamo parlando, per quanto riguarda l'elettrodotto di Terna, di una dorsale che dovrebbe collegare, diciamo così, l'Europa al Nord Africa. Quindi, capite bene, c'è la devastazione territoriale, con la devastazione innanzitutto nell'immediato, perché la cantierizzazione e la distruzione di colline, montagne, eccetera. Ovviamente poi c'è quella inestinguibile nel momento in cui venissero attivati, che è legata alle malattie, alle leucemie, all'incidenza enorme che l'elettromagnetismo provoca nei confronti degli abitanti, perché stiamo parlando comunque, come ho sottolineato già, di aree territoriali fortemente, densamente popolate. Quindi, rispetto alla questione, appunto, della contraddizione capitale-lavoro che si diceva, la questione ambientale a noi sembra una questione imprescindibile, cioè ormai da anni lottiamo, appunto, prima col ponte, ora con le questioni che ho appena citato, sul fatto che non è possibile barattare, stretti dalla mossa, appunto, della disoccupazione, barattare il proprio territorio. Cioè, l'ultima cosa che rimane da vendere, diciamo così, a una popolazione in crisi è proprio la terra su cui poggia i piedi. Però questa è una prospettiva assolutamente inaccettabile, uno, perché molto spesso ha ricadute occupazionali del tutto minime, due, perché, come dire, non è neanche, tra virgolette, diciamo così, produttiva, volendo utilizzare questo termine, perché le ricadute che ha invece in termini di devastazione, di malattia, di costi anche economici che quelle comunità devono sostenere successivamente, non è assolutamente commisurata con quelli che sarebbero gli eventuali ipotetici come dire, guadagni. Quindi, in questo senso, la ridefinizione proprio anche dell'ambito della questione del dibattito, diciamo, sulla occupazione, è per noi una cosa fondamentale. Ci stiamo ragionando da tempo, stiamo cercando, ad esempio, nelle nostre attività, in quelle che sono le cose che specificamente facciamo nei territori, di portarla e cercare micro interventi che però possano in qualche modo essere non solo simbolici. Ad esempio, una delle ultime occupazioni che è stata fatta è l'occupazione di un parco cittadino, che non vuole essere fatta come Teatro Pinelli in sé, ma come è stata fatta dal Teatro Pinelli, ma è stata, diciamo così, auspicata una partecipazione da parte di altri soggetti, anche con altri percorsi, associazioni di ogni tipo, che in qualche modo però abbiano la relazione col territorio e che vogliano portare delle tematiche, appunto, legate alla vivibilità, alla possibilità di vivere nell'ambito cittadino. E sono diversi i progetti che sembrerebbe, diciamo, siamo in una fase di attivazione ancora, si possano attivare. Ma tutti questi progetti hanno come, diciamo, comune denominatore quello di ripercorrere in modo altro anche la relazione, appunto, tra come dire, disoccupazione e occupazione, non più nei termini di capitale lavoro proposta dal sistema capitalistico in sé, ma ridiffusa tra la gente, quindi per esempio, che ne so, progetti di riciclo di ogni tipo, progetti di falegnameria dal basso, tramite anche il riutilizzo di materiali primi, progetti di informatica libera, di veicolazione del sapere, di appunto riutilizzo di macchinari considerati obsoleti, ma che invece possono essere utilizzati per la produzione di alcuni beni. Cioè, mettere in rete sapere e capacità da parte di una serie di soggetti all'interno della città per creare possibilità, ma soprattutto per creare un ragionamento che poi diventi complessivo su come uscire dalla crisi, non semplicemente, come prima tra l'altro dicevi anche tu, in termini vertenziali, visto che ormai, come dire, la contrazione degli investimenti nel sud e l'assenza, la delocalizzazione, ne parlava anche Giampiero, sono diventati una struttura, una forma ormai difficilmente riemendabile, ma appunto riutilizzando quelle che sono state da sempre considerate, o almeno negli ultimi anni considerate semplicemente merci di scambio, come il territorio, considerandolo invece nelle sue potenzialità e possibilità per le persone che abitano queste comunità. Senti, spero di essere, sì, certo, allora, riuscito, io diciamo, a prendere quello che volevo dire con questo ragionamento. Certo, volevo puntualizzare su due aspetti che hai tirato fuori proprio nelle ultime, sì, battute. Allora, sulla questione del ambientale necessariamente da legarsi al conflitto capitale-lavoro, io dico, mi sembra che molto simile sia stata la situazione per l'Ilva di Taranto, dove un comitato di cittadini e lavoratori liberi e pensanti, così si chiamava, poneva la questione che non si può scegliere, non si deve scegliere fra salute e lavoro, che se il lavoro ci deve essere, che è auspicato, perché comunque devono essere garantiti mezzi di sussistenza a tutti e tutte quelle che popolano le regioni del sud, però non può essere un lavoro che poi, da un lato, come dicevi anche te, poi ti condanna a un livello di salute bassissimo, su cui devi andare ancora di più a spendere, su cui immaginiamo che in un sistema capitalistico dove il sistema sanitario nazionale viene costantemente depauperato di fondi e investimenti, quindi ciò comporti che poi le famiglie, gli stessi lavoratori, anche chi non lavora, debba spendere i propri soldi che magari ha guadagnato con quel lavoro per poi curarsi, perché quel tipo di lavoro, quel tipo di sviluppo industriale porta inquinamento pesantissimo. Questo è un primo punto. E un secondo punto che mi viene ora, no, ragionando sulla descrizione che avete fatto tutti quanti delle tre città che abbiamo sentito dalla regione Sicilia. Da un lato c'è la desertificazione, no? Per cui c'è costantemente mancanza di lavoro, chiaramente l'emigrazione è un riflesso di questo, è una conseguenza diretta della mancanza di lavoro, per cui dal punto di vista del conflitto capitale-lavoro non dico che non c'è assolutamente niente da fare, nessuna vertenza, nessuna lotta, nessun conflitto all'interno dei posti di lavoro da fare, assolutamente no, ci sarà sicuramente tanto da fare all'interno dei posti di lavoro, però diciamo che questa desertificazione, questa mancanza di possibilità di sviluppo sociale diffuso su tutto il territorio siciliano mi fa riflettere che crei delle possibilità, no, di spazi, di intervento per costruire un modello alternativo. Chiaramente tu prima dicevi sono aspetti secondari, sono piccoli, sì certo sono piccoli, sono minimi anche magari da un punto di vista numerico, però quelle piccole cose vanno a costituire magari un quadro più diffuso, più generale, che va magari verso la creazione di un modello alternativo di relazione fra le persone e di appunto creazione anche magari di un sistema dal basso che non sia basato sullo sfruttamento e l'oppressione ma sulla cooperazione e sulla solidarietà. Questo mi sembra molto importante. Chiaramente sono discorsi che sono accennati, non siamo in una fase magari, come si potrebbe dire, insurrezionale, rivoluzionaria, assolutamente no, però sono dei piccoli esperimenti che mi sembra il caso assolutamente da cogliere, da analizzare ed eventualmente vedere quanto siano anche magari riproducibili ed estendibili ad altre realtà. Questo mi sembra molto importante, magari come punto d'analisi per le regioni del sud, laddove c'è desertificazione, laddove non c'è lavoro, certo le mobilitazioni sui luoghi di lavoro vanno portate avanti, però chiaramente per vivere fondamentalmente in maniera dignitosa bisogna inventarsi qualcosa, e questo qualcosa non ce lo si può inventare andando a chiedere qualcosa a qualcuno, o quel qualcuno chiaramente sono le istituzioni o i padroni, ma bisogna ingegnarsi, auto-organizzarsi e provare anche ad autogestire quegli spazi lasciati già dallo Stato e dall'antistato, non antistato, di cui parlavamo prima, perché c'è questo problema in più nelle regioni del sud, che sì, non c'è lo Stato, però c'è un qualche cosa, magari un potere anche più invasivo, per cui bisogna provare a intervenire sugli spazi che questi due poteri lasciano vuoti, diciamo, no? Questo... Chiaro, io credo che hai colto esattamente quello che, cioè soprattutto quest'ultima precisazione, è proprio il senso di quello che voleva essere il mio intervento. In realtà anche io, diciamo, proprio per muovermi, diciamo così, coi piedi di piombo, uso aggettivi come piccoli, secondari, eccetera, però credo esattamente che innanzitutto non è detto sempre che siano piccoli, ed è anche tentativo appunto di ridisegnare dei modelli, visto che la questione appunto è che lo stesso modello capitalistico, senza bisogno che noi lo abbattiamo, crea assolutamente un livello di contraddizione e di incapacità per esempio nei nostri territori, che è quasi autodismettente, per cui dentro gli spazi, anzi senza quasi, direi che è autodismettente. Quindi negli spazi enormi che questo lascia, che questo crea, poter immaginare modi di relazione e di produzione differenti credo che sia importantissimo. Faccio solo un esempio che riguarda Messina, credo non solo. Questo tipo di modello ha consegnato la dismissione appunto dei luoghi, che diventano solamente oggetto di speculazione nella nostra specificità siciliana, credo sicuramente messinese, credo in generale siciliana, per esempio la speculazione edilizia, che invece possono diventare laboratori interessantissimi. Noi appunto ci troviamo in una città pienissima di spazi dismessi, spazi che talvolta hanno vocazioni e potenzialità che appunto ci prescindono. Come dicevo, l'occupazione di questo parco ha consegnato proprio l'idea immediata di fare una serie di orti urbani, che sono già una prima, magari appunto, come dico, non risolutiva, però risposta che consente sia una dinamica socializzante differente, ma anche una riflessione pratica di come si possa produrre e stare all'interno dei territori in maniera altra, che coniuga la relazione con i territori e non invece la esclude, avendo una logica semplicemente depauperante. Ugualmente si parlava prima dei quartieri, delle periferie, la stessa cosa, spazi all'interno delle periferie completamente dismessi che possono diventare veicolo di riflessioni, di socialità, di appunto battaglie condivise, che altrimenti rimarrebbero invece nella loro parcellizzazione autistica, che appunto territori urbani disgregati da decenni non riescono a offrire appunto una dimensione socializzante partecipata dal basso. Quindi credo esattamente questo, cioè che nella crisi, diciamo così, ora non vorrei dire una frase un po' ambigua, però che nella crisi ci possono essere anche le risposte. Cioè che nella desertificazione di cui si parla, che questo, come tu hai sottolineato, ovviamente non vuol dire abbandonare le vertenze in atto, no, assolutamente no, ovviamente lottare fino all'ultimo secondo e lottare per vincere su tutte le vertenze aperte. Questa città, come dicevo, è una vertenza continua, ogni giorno ci sono lavoratori nel comune e ogni giorno cerchiamo di sostenerli, però la questione è che anche questi momenti stanno cominciando a diventare momenti in cui le riflessioni diventano non semplicemente e meramente il mantenimento dello status quo, di quegli stipendi da fame, di progetti fatti con meccanismi di ammortizzamento sociale che sono 400 euro al mese, per cui comunque anche se riuscissi a garantirti quello che ti vogliono togliere, comunque non avresti risolto il problema dell'esistere, ma stanno cominciando a diventare modi altri di riflettere sul proprio territorio. Penso ad esempio sulla questione delle case, comprendere quanto il patrimonio pubblico e non solo in questa città sia enorme e le case siano sfitte e ci sia un continuo aumento, perché comunque Messina è anche una città universitaria, un continuo aumento degli affitti, delle locazioni, soprattutto nel centro storico. Questa cosa diciamo, è diventata talmente stridente che ha consentito appunto che rinascesse dopo anni, anzi forse strutturale non c'è mai stato, comunque diciamo sicuramente almeno decenni, rinascesse un movimento di occupazione di case che fosse però dichiarato. È chiaro che, come diceva Federico, mi sembra che lo dicesse Federico, anche a Messina c'è sempre stato l'occupare per bisogno, alloggi sfitti, però il fatto che alcuni soggetti, anche timidamente, anche all'inizio, anche pochi, però comincino invece a riconoscersi all'interno di un movimento che rivendica la giustezza di questo fatto e che rivendica il fatto che non è possibile in una città dove ci sono migliaia di persone che hanno il problema dell'alloggio ci siano altrettante migliaia di appartamenti sfitti. Questo secondo me è un fatto sostanziale, appunto, non più simbolico, non più secondario, ma molto importante. Senti, va bene, io direi che possiamo concludere qui, perché abbiamo descritto un quadro quanto più complessivo possibile e diciamo che per il momento è assolutamente soddisfacente ed esauriente per capire un qualcosina in più da Roma sulla realtà siciliana. Per questo ti ringraziamo e ti salutiamo, chiaramente non mancheranno i momenti per risentirci e per dare di nuovo spazio a te, ai compagni del Teatro Pinelli e delle realtà di cui ci hai parlato qui dai microfoni di Radio Onda Rossa. Va bene? Okay. Un abbraccio e certo, ci sentiamo presto. Ciao, buona giornata, grazie mille. Ciao. Bene, allora provo a fare dei ragionamenti, delle conclusioni su questa prima puntata di questa trasmissione che chiameremo volgarmente In Giro per l'Italia. Allora, prima di tutto devo porgere le mie scuse agli ascoltatori, le ascoltatrici, ma anche alla redazione della radio, perché avevamo pensato questa trasmissione della durata di un'ora. Non è stato così, è stato molto di più. Siamo già quasi a 2 minuti e a 2 ore e un quarto. Per cui, prima di tutto, questa è la prima riflessione da fare. Chiaramente dalle prossime volte dovremo capire come cercare di rimanere nei tempi, magari sì, allungando un po' di più rispetto a un'ora, però appunto non allungarci così tanto, anche perché crediamo che trasmissioni che durano tanto non siano facilmente ascoltabili dagli ascoltatori e le ascoltatrici. Detto ciò, però mi sembra anche di dover prendere atto della necessità di parlare, quindi della necessità di disporre di più tempo per analizzare, come abbiamo fatto con le 3 città che abbiamo sentito in questa trasmissione, di analizzare anche approfonditamente alcune situazioni e alcune problematiche della regione Sicilia. Per questo chiaramente non bastano 2 frasi lampo per descrivere una situazione, e credo che anche l'ultimo intervento da Messina sia significativo, sia esemplare in questo senso, perché c'è un gran bisogno da parte nostra di conoscere, di ascoltare e di provare a capirci qualcosa di più, e soprattutto dall'altra parte, dalle persone che abbiamo chiamato, io credo, riconosco che ci sia anche un bisogno di esprimersi, di poter raccontare la propria situazione, le proprie lotte, di poter anche raccontare la propria visione, la propria analisi che si fa sulla situazione che si vive. Per questo io devo dire che già questa prima trasmissione, quantomeno a livello personale, spero sia stato così per tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, ma anche per i compagni fra di loro e fra di essi che abbiamo sentito, sia stata assolutamente formativa da un certo punto di vista, conoscitivo da un altro, però credo che si debba mettere in evidenza l'importanza di trasmissioni di questo tipo. Detto ciò,